A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fire. In fondo il calcio può non piacerci, può non interessarci, può sicuramente anche un po' romperci i coglioni, ed è quello che succede quando noi facciamo queste riproposizioni, queste meravigliose trasmissioni. Però quando viene l'estate e ci sono questi tornei estivi, quando c'è l'Italia, quella strana sensazione, quel friccicorio, un po' quelle cose che ti fanno tornare un po' bambino quando ti ricordavi che c'erano i mondiali, che ti divertivi, no, i mondiali. Ebbene ragazzi, ci siamo, Euro 2020 con un anno insomma di ritardo parte, e allora partiamo anche noi. Il pallone rotondo, io corro dietro al pallone per quasi un milione o forse di più. Io sogno sempre il gol, sogno sempre il gol, però faccio il portiere. E se il buongiorno si vede dal mattino, questa ovviamente è la sigla con la quale partiamo, meravigliosa sigla che dà il via a Euroludica. Sì, no, Euroludica era quello vecchio. Sì, a Eurocalcio 2021. Finta di niente, okay. Marco Gualdi. Ciao, ciao. Grazie, benvenuti ad Eurocalcio 2021. Michela De Paola. Benvenuti a Euroludica 2016. Bravi, bravi, ci sono gli applausi, senti che bello. Sono finti gli applausi o sono finti chi le fa? Francesco Di Muro. Forse ho sbagliato, che sono sti asset fatti bene, non è runtime questo. Infatti ci siamo sbagliati, hai ragione. Hai buccato la radio sbagliata. Le stupide creature. Scusa, se voi suonate sopra al jingle. Perché sei contro jingle? esatto. Ciao. Esatto. Intanto vediamo insomma quello che sta succedendo sul campo. C'è uno che canta. Non è uno, è Bocelli. Ah, è Bocelli. Ah, gli hanno messo l'occhiali, devo dire. Ragazzi, sto per dire una cosa assolutamente impopolare. Bocelli penso che sia il non vedente più stronzo che io abbia mai conosciuto. Ma tu l'hai conosciuto? L'ho conosciuto così, indirettamente, assolutamente indirettamente. Marco Bianchi, presentaci la tua compagine. Vorrei dire una cosa, io sono Mauro. Bocelli è ipovedente e probabilmente gli dà fastidio le luci della ribalta. Ok, quindi non è le luci della ribalta. Ah, era una battuta. Ah, quindi è ipovedente. Ve lo ricordate quell'altro tizio, il cantante, quello Non guardarmi non ti sento, com'era la canzone? Non amarmi. Anche quello era ipovedente. Attenzione, c'è una tizia che vola le spalle. Sta esplodendo tutto lo stadio. Esatto. No, esatto. Mentre c'era una tizia che svolteggiava dietro Bocelli, ma forse gli sganciava una bella cacchina addosso. Quello che non sapremo mai è che cosa sta cantando Bocelli. Fumo ovunque. Cioè, perché comunque. Secondo me sta cantando, esatto. Tipo. Vincerò. A vederlo. In realtà, vincerò, Simone, se ti può interessare, noi possiamo fare il live playback. Vai. Potete assolutamente. È quasi finito, però. Ma non è importante. Stasera avevo meglio da fare, ma 2 lire in saccoccia non fanno mai male. Steng. Comprerò nuovi occhiali da sole. Cercate di giocare bene. anche un mortacci vuoto. Bellissimo, bellissimo. Comunque adesso vediamo immagini, gente viene disintegrata. Esatto, cioè, esatto. E si trasforma in luce. Bellissimo. Esatto, non si sa il significato metaforico di questo credo momento. Credo che stia cantando Bono Vox adesso, però non posso sentirlo. Fateci la canzone di Bono Vox. Con le X sulla maglia. Ah, bello. Però non c'è Bono Vox. Beh, no, c'è tutta gente che sparisce, forse... C'è cattivo Vox, probabilmente. In realtà c'è tipo un riferimento al Covid. Ci sono i morti del Covid. Non mi, non mi momento carica. Noi siamo un po' come Bocelli, siamo ipovedenti perché esatto, non vediamo cosa sta succedendo. Beh, ma abbastanza che andate su RaiPlay e la vedete. Appunto che non va. Noi siamo nei posti dove va col telefono, hai capito la connessione? Dove non va col dove telefono. Non va col non telefono. Va col telefono. Bene, bene, bene, bene. Dite qualcosa che devo sistemare un attimo una cosa. Che schifo. Bello, allora comunque adesso ci sono delle coreografie bellissime fatte con le luci. Dai, dai. Cioè delle, delle coreografie di luce che scorrono. Ma anche attenzione, c'è Bono Vox in versione ologramma. Perché sì, bellissimo, però è un po' scolorino perché... Non so, forse per smarmellare, non fa vedere che è vecchio. Perché lui mi sa che non è presente. Che lui col cazzo che si muove da... La mano col luminosa e il Covid... Attenzione, attenzione, appaiono le bandiere di Turchia e Italia. Perché lovers. Pure che noi giochiamo allo Stadio Olimpico di Roma, ricordiamo che l'Italia gioca fuori casa. Esatto. Secondo il regolamento, ok? Quindi è Turchia-Italia, non è Italia-Turchia, mentre che sento cani che... Quindi se si stronzi non vincono, c'hanno una scusa perché giocavano fuori casa. Perché è sempre brutto giocare fuori casa. Ma guardi, iniziano gli europei, sei contento? Sono contentissimo. Sono contentissimo, sono contentissimo. Adesso c'è il cane che si sta suicidando da questo. Però è bellissimo. Tanto non è il mio. L'ho spaventato. Vabbè, ragazzi, comunque queste immagini. Cioè, queste immagini che stanno spassando in questo momento sono veramente un po' strane. È il futuro, quindi, è il futuro. Diciamo che è un omaggio sicuramente a tutti gli infermieri e a tutte le persone che hanno perso qualcuno durante... Quindi tutte queste grandine di luce sono... Morti, sono morti, pizzi, è la gente morta. È 1 giugno comunque, se troviamo... Prego? È 1 giugno, è l'11. È l'11 giugno. In particolare quindi anche quell'infermiere che mi ha perso i risultati del test e l'ho dovuto rifare. Ciao infermiere, bastardo. Bastardo infermiere, vabbè, noi vogliamo bene agli infermieri Covid e anche quelli non Covid, chiaramente. Bene ragazzi, allora questa sera Italia-Turchia, anzi Turchia-Italia, Turchia-Italia è una partita molto importante perché Michela, che cosa si gioca l'Italia questa sera? I punti, dai dillo. Ah, si gioca i punti perché i punti. Non li fanno giocare più. Esatto, e quanti punti ci sono in palio? Aspetta, cioè, si gioca i punti perché sennò non li fanno giocare, non li fanno giocare è più. È come Mira Lanza, guarda, devi collezionare punti, quanti punti devi collezionare per prendere la brocca? Questo è un po'... Allora dipende. Questo è importante. Se cioè, quanti punti? La brocca sono 20 punti. 20 punti sono tanti. Come si fanno a fare 20 punti in una partita di pallone? Ma soprattutto il servizio le posate per 12. Quante partite deve fare l'Italia? Deve fare 3 partite. Quindi deve fare almeno 7 punti. 7 punti. C'è ragione, 7 gol. Insomma, non so i punti, non so gol. Punti. Ah, ok. Come funzionano? Se la squadra vince, so. X. No, X. Te la guardi, quanti se punti la squadra c'è uno. No, i punti, quanti punti so se la squadra vince? No, quella sta a fare la schedina. Io sto a fare la schedina. Ma no, la schedina non se la... A parte che non so neanche. Cioè, ma non capite neanche i riferimenti. Ma come si fa? Noi non la capiamo. Ma stiamo parlando dei punti. Dei regolamenti. Attenzione, stanno per entrare. Allora, entrando le squadre. Io vorrei, prima di tutto, vorrei un attimo. Che è lo squalo, tipo, ok. Vorrei un attimo l'intervento di... No, come si chiama? Di uno dei due Geronto Gamers, no? Non so se ve li ricordate, Geronto Gamers, chi ascolta Runtime Radio se lo ricorda, che però da vecchio che giocava ai videogiochi è passato a vecchio che si intende di moda. Allora, quindi bisogna fare il collegamento col futuro. Vai, vai, prego. Devi fare il collegamento. Aziona la macchina del tempo futuribile. Non ce l'ho, ecco. E fai le asset che facciamo normalmente. Ecco, ma questo è, non c'ho altro in questo momento, quindi non è che posso... Faccio io l'asset. Faccio io. No, vabbè, li conosciamo gli asset che facciamo di solito. Pronto. Eccolo, buonasera. Mortacci, forse stava a dormire. Lo so, ma come, c'è la partita? Dal nostro futuro. C'è la partita? C'è stata la partita. Ah, per lei c'è stata. È la partita bella, la partita dell'Italia. No, non ci dica niente, non ci faccio la spoiler. Vuoi sapere come è finita? No, non lo vogliamo sapere. Non vogliamo sapere. Dopo chi voi... si è fatto male? Potete sapere chi si è fatto no, male? No, vogliamo sapere. Ma è morto qualcuno. Secondo me se lo ricorda neanche. Se lo ricorda, scusi. come se fosse ieri. Ieri, esatto. Ma Marisa, portami la pasticca. Ma lei non era in due una volta a Geronto Games? È morto, lo sapevo. E quello ogni tanto mi muore. Era già morto e morto. Però era tornato. Quello ogni tanto mi muore. Se non è memoria, poi ogni tanto ritorna. Vabbè. Ogni tanto muore. Comunque, siccome che fra un po'. Marisa la pasticca. Siccome che fra un po' ci sono gli inni nazionali e noi dobbiamo sentire gli inni nazionali, volevo sapere da lei un commento sulla divisa dell'Italia. È morto pure lui. La divisa d'Italia è bella. È bella con questi violetti bellissimi, bellissimi. Lei dice l'uniforme di rappresentanza, forse sta dicendo quella col colletto coreano. Il colletto coreano è quello che l'ha fatta Armani. Armani Gomio. Quello è Armani Gomio proprio da danno. Ti legano al contrario di braccia. Quello è perfetto coreano, proprio perfetto. Quello non sai che è un altro tipo di cosa. Ma è coreano pure quello. Ho capito, va bene. Bene, bene, bene. Ragazzi, invece voi da Como, giusto? Yeah. Yeah. Però, scusa Bianchi, non hai presentato la tua compagine. La mia compagine, ma la nostra compagine è unita, non c'è bisogno che io presenti la mia compagine. È una compagine. Ci presentiamo contemporaneamente. Contemporaneamente. Io sono Marco. Io sono Mauro. Faccio la contatilità del rock. Sono con queste creature da tanti anni, effettivamente. Ok, però scusa, vi devo interrompere questa cosa meravigliosa perché c'è l'inno della Turchia. Ascoltiamocelo. Bellissimo, bellissimo inno. Che si è trasformato da inno turco a inno italiano così. No, è l'inno turco questo. No, questo c'è l'inno adesso turco, l'inno italiano. Però sotto è diventato tutto uno. Cioè, è l'inno turco, infatti noi abbiamo rispettato anche in silenzio e adesso c'è l'inno nazionale italiano. Io direi che l'abbiamo capito, no, l'inno? È quello lasciamo nel sottofondo perché. No, ma in realtà sembrano simili, ma c'è una sottile differenza che poi approfondiremo dopo quando magari Marco ci dirà. Io lo so, ma infatti se voi sentite queste cose qua che l'inno turco dire dov'è la cicoria? Non esatto. Dice, ma poi fratelli di Turchia, dice, non è dall'Italia, è Turchia, quindi. Io comunque ho notato, non so se siete d'accordo, un certo afflato di partecipativo da parte dei tifosi turchi e italiani durante l'inno nazionale. C'è gente che si caricava proprio i polmoni e c'è Ciro che è carichissimo, lo vediamo. Ciro, insomma, grande personaggio storico del nostro. Tra l'altro, insomma, prima di iniziare a fare anche un po' di cronaca, insomma, di quello che succede, perché giochiamo contro la Turchia, quindi guardi, tu ti sei informato, no, su quello che succede. Io più avanti, non so se tra primo o secondo tempo o direttamente al secondo tempo, ho le cose più interessanti della Turchia, insomma, più delle curiosità. No, volevo dire che abbiamo fatto un sondaggio oggi per tenere, insomma, un po' vispa anche la partecipazione della gente. Tra l'altro, Michela, in chat c'è qualcuno oppure non ci sta? Allora, no, in chat c'è già Gianluca e Olivia. Olivia. Olivia che sta cucinando. Brava. Poi c'è sta fa la torta per domenica. No, che schifo, speriamo di no. Dai. C'è Roberto che chiede chi è la mascotte. E se, la, se è il quadrupede, bisogna capire quale quadrupede. Perché ce ne abbiamo diversi. Gualdi. Ah, ok. Okay. No, ma tra l'altro, cioè, diciamo anche c'è la, diciamo anche la verità che insomma, questo mascotte fatto dallo studio di Rambaldi, giusto? Che io pensavo fosse morto, invece è morto. No, da mo. Da poco è morto. Miguel, scusa, io non l'ho visto. Mi descrivi qual è la cane, è un cane. È un cane con la maglietta sì, è tipo Scozia, con la maglietta dell'Italia. Esatto. Quindi c'è pure una contraddizione in essere. Ci siete dei cani. Quindi, esatto, ok, esatto, esatto. Miguel, allora, come si stabilisce chi batte il calcio d'inizio di una partita di calcio? Adesso lo stanno facendo, stanno giocando a testa o croce. Testa o croce, oppure morra? Morra cinese. Morra cinese. Ok. E quindi l'arbitro sta lì che... A frecce? Quello è un altro sport. A freccette, se tirano a fronte. Intanto sentiamo che c'è un sottofondo molto thriller. Di ansia, sì, infatti. Come mai quest'ansia? Stupido? Perché sapere chi batte per primo il calcio. Ma scusate, ma Chiellini, ma quanti anni c'ha? Troppi, c'è troppi anni. Non lo so, chiediamolo a Marco Bianchi, per esempio. Chiellini, quanti anni c'ha? Tu poi che sei vicino di casa, no, di Chiellini? Sì, sì, sì, io sono non solo vicino di casa, ma posteggiamo la macchina nello stesso cortile. Quante volte gliel'hai rigata la macchina? Ho scoperto ieri sera che era sua, quindi quindi glielo lo farei la prossima volta. Ma tu lo sai che Chiellini è da Juve, no? Ma io avevo intuito la cosa perché sul cruscotto non c'era il coso che serve per posteggiare, come si io dice? Vorrei interrompere un attimo tutto per dirvi che il numero 5 della Turchia si chiama ok. Cioè, raga, vi giuro, si chiama ok. Ma perché c'è una micromacchina? Ma perché c'è una macchinetta che sta andando per il campo, cioè che porta la palla? Ah, certo, ma che bello, che bello. Però sarebbe bello se la macchina si cappottasse ed esplodesse con un effetto di Michael Bay, oppure insomma investisse la caviglia di un turco, ad esempio. Bene, tra l'altro volevo dire, Marco, prego, vai. No, volevo dirti che non, molti di voi non lo sanno, ma in realtà è stata scritta una canzone sul giocatore ok, che giustamente Michela, da donna e persona attenta, sì, ha colto subito. Volevamo dirlo alla fine, però visto che l'ha tirato fuori adesso, se volete vi facciamo ascoltare la canzone. Prego, subito. Prego, come no. Noi siamo in italiano, vuol dire tutto bene. Io sono venuta qua per stravolgere la scaletta, quindi. Prego, prego. Ok, corre dietro al pallone. Ok, sbaglia il tiro. Ok, ha due piedi sinistri. Ok, ha due mani sinistre. Ok, è mancino. Ok, bellissima, bellissima. Ok, persona sinistra, tra l'altro. Sì, persona sinistra, tra l'altro. Ma e come cammina uno con due piedi sinistri, tra l'altro? Tenendo la sinistra. Comunque, cioè, come potete vedere, Michela, tu stai vedendo, no? Giustamente, qual è l'Italia? Aspetta, che sto vedendo. L'Italia è quella bianca. Quella bianca, bravissima. Ecco tutto questo razzismo. Cioè, ci sono anche delle persone, degli italiani un po' meno bianchi di colore, che sono bianchi comunque. No, perché Ken, il giocatore di colore, non è stato poi convocato alla fine. No? Che strano, perché no? Perché dovevano essere tutti bianchi. Sì. Allora, probabilmente. Perché dice che non. Armani gli ha detto no, c'è che violenza, delle problematiche. Prego. È già partita la capocciata. Una capocciata. Vabbè, comunque, a proposito di capocciate, io vorrei dire che le stupide creature, giustamente, sono il valore aggiunto di questo. Che ringraziamo, esatto, per essere. Se no non ci sarebbe stato il programma, probabilmente. Cioè, ecco, che si fanno le musiche da soli. Hanno fatto un'intervista, cioè nel senso, noi abbiamo degli inviati, no? Perché per capire un attimo, un po' entrare anche in questo mondo. Ma attenzione, no? Che c'è un. Non c'è arrivato. E per entrare un po' nel mondo, per fare anche il nostro contributo dal punto di vista della cronaca sportiva, giustamente loro hanno intercettato un. Volete dirlo voi, insomma, di questa intervista? Ma sì, volentieri. Noi siamo riusciti ad infiltrarci e ad avere una serie di ospiti. Tra costoro si cela anche un alto dirigente della Turchia che abbiamo prontamente intervistato. Insomma. Bene, allora ce lo ascoltiamo. Forse ce lo ascoltiamo, eh? Adesso vediamo se ce lo ascoltiamo. Lo possiamo fare come... No, questo non è. No, questo, no, stai svegliando la fallo, stai buono. Scusa. No, buono, ma hai svegliato la bestia, pizzi, buono. No. Piccolo, no. Non ci si chiude. Buono, stai tranquillo. Scusate, ma sono cose che, come avevo detto, sarebbero successe. Insomma, tu vai a toccare il criceto. Scusate, mi ha toccato il criceto. Dopo il criceto. È brutto dirlo, ma mi ha toccato il criceto. Esatto. Infatti, vabbè, che adesso gli. Ancora che basta, fermo. Stai buono. Con ste mani che mi tocchi al criceto, stai tranquillo. Sì. Ha voglia dei bastoncini, non c'è niente da fare. No, i bastoncini quelli servono dopo, ragazzi. Dopo. Non glieli fa vedere, Marco. No, abbiamo risolto il problema con lei e quindi andiamo dal dirigente turco. Cari amici, per la serie delle interviste e delle stupide creature abbiamo qui con noi un personaggio veramente incredibile per questi Europei 2021. Siamo veramente onorati, scusatemi, onorati per averlo qui in studio con noi. Mauro, vai! Ma abbiamo qui questo grandissimo dirigente della squadra turca, Umut Barok, e ci onora della sua... scusa, col pizzico. Ci onora della sua presenza. Bene, signor Barok, procedo con la prima domanda. Cosa pensa? Massimo, scusa, posso aprire una? Lo so, posso aprire una finestra perché. Sì, aprite, ma. Scusa. Aprite, ma. Non interrompetemi, questo. Non abbiamo visto il signor Barocchi che ci ha deliziato della sua presenza, appunto. E abbiamo pochi minuti per chiedergli giusto due cose molto, molto importanti. Che cosa ne pensa della nostra nazionale? E vabbè, come avete capito, insomma, questa intervista purtroppo non è andata a buon fine, ma non per colpa dei nostri professionisti. Abbiamo provato. Che chiaramente hanno fatto il loro meglio, no? Cioè, giusto, Marco? Ma sì, no, noi più che altro siamo molto dispiaciuti perché in realtà l'intervista è stata rovinata dal segnale antifumo. Eh sì, quello è stato. No, sarebbe stata una grande intervista. È tutto chiaro quello che stavo dicendo. Fin lì era tutto chiaro. È un turco perfetto. Perfetto. Ma soprattutto abbiamo fermato la registrazione all'arrivo dei pompieri, perché poi... Sì, la cosa è continuata, però comunque... Per ore. Sì. Però lui non ha smesso di fumare, ecco, questo volevo dire. Cioè, ha assistito alla cosa... accendendosi anche un po' scocciato anche un po' scocciato, sì, perché poi abbiamo saputo che insomma se l'è un po' presa perché gli abbiamo fatto perdere del tempo a detta sua. Noi ci scusiamo comunque pubblicamente, ovviamente. Vabbè, no, poi ci saranno altri contributi, altre interviste. Io non so se ci ha raggiunto Carlo Sant'Agostino, ma ancora non abbiamo notizie, perché anche lui poi ha una sua postazione importante all'interno di questa organizzazione. Prego, Francesco. No, è che si sta cercando di connettere con i mezzi che gli abbiamo dato, e giustamente quel mezzo non è proprio il massimo. Vabbè, non spoileriamo troppo, diciamo così. Ho capito. Ma intanto voi a Como avete risolto le problematiche di visualizzazione? Sì, adesso vediamo in tempo reale. Sì, in tempo reale è una parola un po' grossa, però stiamo guardando praticamente Italia-Brasile dell'82. Esatto. Quindi noi ci portiamo poi avanti, esatto. Basta, con calma. Io sto cercando di capire quando è che Zidane darà la capocciata. Insomma, non c'è Zidane. Ah, ok. Vabbè, allora comunque, visto che svegliato il sorcio, Pizzi, cioè, dovremmo anche introdurlo, perché sennò qua stiamo già al sesto, sì, quasi al settimo minuto. Attenzione, niente. Fallo al contrario. Fallo al contrario. Cioè, il come il fallo al contrario? Michela, com'è il fallo al contrario? Allora, il fallo al contrario. Prima bisognerebbe capire che cos'è il fallo, però non voglio. Vabbè, quello ci arriviamo dopo. Non partiamo di ancora presto per parlare di falli. Esatto, siamo ancora in fascia protetta, non a caso. Quindi falla al contrario è quando praticamente fai il fallo camminando come il gambero. Certo. Bello. Mi sembra giusto. Ma attenzione, quasi quasi pigliavamo il gol. Tutto sommato c'è anche una, come posso dire, un suo perché questa sua descrizione, però diciamo che il fallo in questo specifico caso è stato il portiere turco che ha falciato il suo difensore, quindi in quel caso non si applica il VAR, giusto Michele? Ah, si sono fatti, cioè si sono mucchiati tra di loro. Ma il VAR si applica in questo caso? Direi proprio di no. Poi ci arriviamo. Comunque stavamo. Io sono l'unica cosa che so, mi sa che è il VAR. Allora, stavo cercando di spiegarvi che siamo arrivati quasi al decimo minuto e qui potrebbe succedere di tutto. Quindi noi abbiamo. Ecco, se voi sentite, abbiamo avvicinato questo. Si sta preparando mentre si è spento il monitor. Se vi ricordate, abbiamo preso il famoso polpo pollo. Esatto, abbiamo preso anche noi il risultato delle partite. Poi in genere poi ci sono usciti altri animali. Anche noi abbiamo la nostra personale mascotte con poteri soprannaturali che predirà il risultato delle partite. Lo vuoi presentare tu, Marco? Signori e signori, è per noi un grande onore presentare al pubblico italiano e del mondo Amleto il criceto. Bravo Amleto. Torna sulla ruota, bravo, tranquillo. Allora, Amleto ha questa grande facoltà di predire il risultato delle partite. Ma è molto bravo perché predice anche il risultato finale, cioè non soltanto chi vince, ma anche come vince. E come fa? Abbracciando la bandiera della squadra? No, troppo banale. Non lo so. Fissando la bandiera. Voleva dire la sua. Infatti, no, perché adesso lo dico, tranquillo. Lo fa rosicchiando dei bastoncini. Allora, qui abbiamo messo 20 bastoncini e il nostro amico Amleto andrà a rosicchiare questi bastoncini perché gli piace, Criceto rosicchia. Metà di questi bastoncini ha la bandiera italiana, metà la bandiera turca. In base a quanti bastoncini vengono mangiati dell'una e dell'altra nazione, avremo il risultato finale. Okay, e quindi sguinzagliamo il nostro simpatico Amleto. Ma che succede se Amleto... Dopo. Ok, allora vai Amleto, vai. Bravo, rosicchia. Dobbiamo aspettare un paio di minuti. Ok, quindi possiamo andare avanti con la trasmissione. Un paio di minuti, così? Intanto sentiamo Bianchi che sentivo che... Stacca il microfono Amleto. Stacchiamo il microfono Amleto, ok. Ma poi dopo ci ritorniamo ad Amleto. Marco. Allora, caro Simone, come sai il nostro contributo è soprattutto musicale. Volevamo dire a Michela, che come sempre è davvero sul pezzo, come si suol dire, che è di ispirazione stasera, quindi. No, nel senso che veramente è sempre avanti. Esiste veramente un brano di origine, tra l'altro, della tradizione italiana che spiega il fallo al contrario. E noi con umiltà vorremmo proporverla. Sì, assolutamente sì. Guarda, non devi chiedere, tu vai direttamente. Fallo. Dai molteplici significati, ma solo uno è il fallo al contrario. Olaf. Mi sembra anche giusto, che poi tra l'altro Olaf è un giocatore turco, quindi ovvio. Vedi che c'è tutto. Attenzione, la Turchia sta andando in attacco, potrebbe segnare. Era fuori gioco fino a che questo è un fallo in attacco, ad esempio, pericoloso. Che cos'è un fuori gioco, Michela? Avrai imparato, no, cos'è un fuori gioco? Questo l'abbiamo già chiesto l'altra volta, però glielo richiediamo, giustamente. Ma secondo voi io dopo 4 anni dopo 5 anni mi posso ricordare che cos'è il fuori gioco? C'è ragione, non ne parla mai nessuno, quindi dici, dai. Il fuorigioco è quando la palla va a finire in testa al pubblico. È uscita fuori gioco la palla, cioè ha il suo senso. Ma perché però deve stare in testa al pubblico, deve stare sopra? Se va sul petto non è fuori gioco. Se va sul petto l'abbracci e quindi diventa un gesto affettuoso. La nascondi e te la porti a casa. Ma se l'abbracci è fallo di mano, quindi non vale. Esatto. No. Fallo di mano solo su fallo da Piscuano. Bravo. E da Villano anche un po'. Fallo da Villano. Va bene. Ma quindi non ci saranno capocciate in questa partita? No, non è detto, cioè, non è che i turchi sono tanto meglio dei francesi. Cioè, i turchi sono tutti piccoli Zidane. Che le botte, guardate questa azione. Tutte botte, Non ci stanno botte. Sembra che siano tranquillamente facendo dei passaggi. Barzella, o non so come si chiama, sembrava. Chiudi Disney Plus, stai guardando Endgame, no. Chiudilo, quello non è la partita dei calci. No, diciamo che questi menano, però, insomma. Sono turchi, abbastanza turchi, nel senso. Fanno che... i turchi, giustamente, non è che stanno lì, fanno le donnicciuole, insomma. Ma scusate, io volevo sapere, ma il pubblico turco è stato. Cioè, è presente nel. È stato ammesso soprattutto in Europa, sì, assolutamente. L'hanno fatti vedere prima con che cantavano l'inno. Niente, io mi dissocio politicamente dalla Turchia. No, diamo un'informazione corretta: che i turchi che sono presenti erano turchi che erano già in Italia. Perché praticamente tutti quelli al di fuori della zona di Schengen non potevano entrare, quindi i turchi hanno protestato molto per questo. Pronto? Che è radio? No, è sempre Snake. Snake, hai ragione. Allora, intanto salutiamo Sbano che non ci può ascoltare perché sta finendo un bando molto importante. A Sbano, fai il bando sentendo la radio, cioè non... E Alno, sicuramente sarà così, però sai, non è dato sapersi. E al 9000 che purtroppo non ci può ascoltare perché sta andando al lavoro. Al lavoro, mentre che vai al lavoro è il momento migliore per ascoltarci, insomma. Tra l'altro ci stiamo informando per prendere una licenza DAB, vediamo che succede. Io ho comprato una radiolina DAB, brava, quindi vi ascolterò. Esatto, brava, ti ascolterai. E attenzione, cross al centro e niente. Bene, Francesco, tu hai qualche cosa da dirci in merito? Ci sono delle cose di cui vorresti parlare all'interno di questi momenti? Perché dopo poi lanciamo anche un brano, perché ci ascoltiamo anche un po' di bella musica, anche per ripercorrere la storia delle stupide creature che ci hanno fatto tanta compagnia con l'epoca dei distinti starnuti, insomma, che tu conosci bene perché hai avuto l'opportunità. È stato unito diverse volte, infatti. No, dire che il colore dell'erba qui è particolarmente verde, ma è normale che ci sono le chiazze, ci sono delle strisce più verdi, alcune meno verdi, è strana sta cosa, non perché lo so, mi disturba il mio doc, quindi... Ok, no, quello è a secondo dal verso con il quale... Ah, attenzione, c'è un turco a terra che non s'alza più e sta veramente morendo... Ozan sta morendo. Si sta alzando, sbuffa, ma si sta alzando. Però si alza molto piano. Mamma mia! questo è Oscar. Veramente, date un Oscar a sto morto. Cioè, non gli ha fatto niente. Cioè, questo si chiama calcio. Sì, ma fate parlare anche loro che stanno. Niente di fatto, è ancora vivo. È vivo. Basta. È pure vivo, scritto sul coso, vivo e costante, infatti, sì. attenzione, c'è un break, l'Italia praticamente in questo momento cerca di manovrare un contropiede facendo questi giochetti di passaggi. Ciro che corre, Ciro. Attenzione, ancora l'Italia continua l'azione sulla fascia sinistra. Dopo questa azione il nostro vicino ha finito, si è infilato, attenzione, cross, niente, perché la muraglia turca. Comunque dobbiamo Ciro va avanti da solo in... Pronto a buttarla. Sì, ma c'è il Criceto, Michele, non ci frega niente. Non è importante adesso c'è il nostro amico Criceto che ha mangiato. No, c'è un'azione importante. Non ci frega niente. Ma il Criceto lo possiamo sentire dopo il brano, per esempio? No, perché se segno nel frattempo gli scompone. Hai ragione. Allora, poi non dobbiamo sentirlo, insomma. Lui vuole dire la sua. Ha finito. Guarda, ho finito, abbiamo capito. Allora, ha mangiato. Ha mangiato tre bastoncini dell'Italia e uno del chi sono questi? Turchi, sono turchi. Turchi. Quindi 3-1. Quindi cioè non determina solo la vittoria. No, perché è preciso. Preciso. Il polpo pol ci fa una pippa, come in Francia, si dice così, ci fa una siga. E che cosa vince se vince? La vita. Cioè in che senso, scusa? Vince la vita. Cioè che se sbaglia muore praticamente, tu mi stai di questo? Ma questo non doveva essere un programma divertente? Senti, ragazzi, tono, cioè, questo qui praticamente, no, perché altro, perché è un, cioè, bisogna un po' incentivarli gli animali, cioè non è che vengono qui e ti fanno la previsione, insomma, cioè, quindi abbiamo detto, fai la precisione, la previsione. I bastoncini che saranno costati i loro 15 centesimi a pacchetto, quindi... Adesso deve andare avanti. Sì, ma se funziona, se è bravo, lo andiamo avanti. Sennò che cazzo ci devi fare tu con Criceto? Scusate, cioè, se interrompo, bello. Ma questo povero Criceto, sì? Dopo che ha mangiato 4 bastoncini, con la stipichezza che gli dai? Ma non è il nostro problema, perché dobbiamo vedere. Non c'è questa sensibilità, esatto, sul Criceto. Ma dobbiamo vedere, perché se poi azzecca ci penseremo, se non ci azzecca è inutile mettersi qui a disquisire, a fare, sì, vediamo, abbiamo già il micronte bello caldo, diciamo così. Ma no, addirittura. Ah, voi. Vabbè, qui bisogna far spazio alle nuove leve, non è che morto un animale se ne fa un altro. La gente che felice ti ringrazia e di cultura mai ne sazia, la tua carica è importante, spesso molto affascinante, dare spazio ai creativi di sti centri abitativi, ignorando il consiglio di chi crede che sia meglio appaltare strade e uffici che avere ed efficaci. Dai, contatta l'assessore, stai in ufficio poche ore, spieghi bene il tuo progetto, ma ti dice no, ti getto. Chiedi come mai, lui risponde perché sai, per la lista è un buon momento, ci vorrebbe un grande evento, poi ti dice che attualmente la tua idea non se la sente, i fondi sono davvero pochi, poi ad agosto fanno i fuochi. Assessore alla cultura, guarda che la vita è dura, se con l'arte non se magna è perché c'è chi guadagna, promuovendo grandi eventi a discapito dei talenti, con l'idea che ti martella di aprire la bustarella. Lui vorrebbe un gran concerto di un artista molto esperto, una tipo Emma Marrone, pur che stia in televisione. Fai notar con molto tatto che l'artista ha un contratto, può costare dei milioni, non sare così coglione, lui non pensa ai tarifari, l'importante è andare in pari, con un fare un po' borioso, poi ti chiede se è invidioso. Assessore alla cultura, guarda che la vita è dura, non è detto che all'evento corrisponda il cambiamento di una specie che si evolve con la mazza di revolver, se la musica per strada è la stessa ovunque vada. Assessore alla cultura, guarda che la vita è dura, musica, arte, teatro e danza, il rimedio all'ignoranza. Siete mani degli affari, delle arti, i sicari, alle feste tutti sbronzi, in sostanza grandi strozzi. Bene, lo so che questa è una cosa brutale, ma noi abbiamo questa tradizione nelle nostre trasmissioni, cioè di essere brutali, quelle di interrompere le canzoni e parlarci sopra mentre che vanno avanti. Intanto Marco Bianchi giustamente ci introduce questo prezzo storico che ha vinto anche il Wendell Sanders Festival, il premio Mucca d'Argento al Festival di Baldassone, vicino Spurgate, se non sbaglio. Spurgate, sì. Tra l'altro sempre là. Abbiamo un collegamento telefonico, quindi prima Marco ci racconta un po' questo brano e poi allora, insomma. Questo brano, sì, questo brano in realtà non l'ha interrotto, perché nella versione originale c'è proprio Simone Pizzi che dice noi adesso interrompiamo questo brano. Okay. Quindi è una live fondamentalmente. Eri perfettamente a tempo, esatto. E questa devo dire è eccezionale. Ecco, niente, il brano praticamente narra di un simpatico rapporto tra un artista e un ipotetico politico, che dir si voglia. E noi nella nostra band abbiamo raccolto le frasi più significative che negli anni hanno accompagnato la nostra carriera, tra un concerto e l'altro, con richieste più o meno assurde che però non abbiamo sentito in questa versione radio edit perché sono proprio alla fine. Ok, va bene. No, tra l'altro ci scrive in chat una ragazza, si chiama Grosso Melone Femmina 84, dice: è brutto parlare di politica in trasmissioni come questa. Ha ragione. Infatti cercheremo di non farlo più ulteriormente. Ma dobbiamo fare proprio le trasmissioni. Michela, prendi la scheda tecnica, che abbiamo insomma un personaggio da presentare adesso. Importante, ok. Michela non ha neanche il microfono, perché è quello di niente. Vabbè, se vuoi posso recuperarla io. Ecco, bravo, recuperala te, perché io non posso fare assolutamente tutto. Marco, dato... scusa, mi serve una presentazione, quindi squillo di trombe. Squillo di trombe. Trombe? Perfetto. Salve. Esattamente le trombe. Dobbiamo presentare il professore, il dot. Aspetta. Giusto? Sì, ma sicuro che a parte questo collegamento non vedo niente, non vedo. Sicuro. Beh, per telefono dovrebbe stare, per telefono. Secondo me no. Ah, ok. Allora aspetti che ci proviamo. Aspettiamo con lo squillo di tromba, però. Perché abbiamo un grosso ospite. È stato già nostro ospite qualche anno fa, a morte di bestemmie, se non sbaglio. Un nostro programma che tornerà. Sono 3 anni che diciamo che tornerà, ma tornerà. Un ospite illustre, un dottore, un professore, un luminare della scienza della mente, possiamo dire, della neuroscienza, di tutto, insomma. Della tanta scienza anche un po'. Non c'era scheda che dice tutte le cose. E adesso lo dico, infatti. Stai tranquillo. Il dottor Filippo Campo, psicologo, psicoterapeuta ed orientamento psicocorporeo, professore associato presso l'Università di Spurgate e di Giunocchiat. Spero si pronunci così. Sì, forse, però forse accelera un po' la... Nei Paesi Bassi. Membro fondatore... Membro fondatore dell'Associazione Internazionale Maze Panel, coordinatore del Centro Ordinario Ricerca Clinica Avanzata Terapia Eterodossa, il CORCATE, autore del bestseller internazionale Non è mai troppo tardi, un approccio psicocorporeo alle mancanze di ieri, e di saggi tra i quali Chi stimola prima, stimola due volte, e di circa 50 pubblicazioni scientifiche su prestigiose riviste specializzate o specialistiche. Buonasera professore, dottore, com'è poi? Ma mi chiama un po' come vuole, tanto ormai siamo amici. Buonasera signor Sione. Buonasera, per noi è un onore averla dopo tanto tempo poi. Bravo. Ma sì, sapete, sono stato un po' piuttosto impegnato qui, le attività collocate non mancano mai. Abbiamo vinto anche un bando recentemente con una parte, diciamo, con le Nazioni Unite, quindi andremo addirittura ancora oltre l'Europa, diciamo così, quindi abbiamo modo di divertirci. Poi col Covid è stato quel che è stato, però sono qui per presentare un nuovo progetto in modo inedito, lo presento poi di Runtime Radio, se ne vogliamo parlare, che ne dice? Sì, poi ne parliamo, magari se vuole anche fare una trasmissione sua, noi insomma siamo sempre ben disposti. Poi tra l'altro, dottore, mi scusi, ma se sente un cane che abbaia, ma soprattutto se sente rumore di scrunch scrunch, è la mia seconda personalità, praticamente Michele e Marco che stanno mangiando il gelato così alla cazzo durante la trasmissione, ma non è un problema. Ma vabbè, ma tanto sono dei ragazzi, diciamo, ragazzi, non fa niente. Senta, perché lei abbiamo deciso di farla intervenire a una trasmissione sportiva, diciamo, perché mo lei insomma, diciamo che prima aveva un certo tipo di indirizzo, adesso diciamo si è un po' orientato verso il mondo dello sport, se non ho capito male. Ma sì, perché diciamo che con Cocato abbiamo cercato di fare questo studio piuttosto innovativo dal punto di vista europeo, ma anche nazionale. Deve sapere che le tecniche di empowerment sportivo sono all'ordine del giorno, ci sono i meglio, gente piuttosto incompetente che ti permette di dire che hai il metodo giusto per rafforzare, per motivare meglio gli sportivi in campo, soprattutto in partite internazionali, però comunque sono sempre alla presa di stress, di altre problematiche, per cui poi la performance è un po' carentina, e quindi la concate. Nient'altro, stiamo conducendo uno studio, abbiamo avuto l'opportunità di fare, di allenare la mente degli attuali componenti della nazionale di calcio italiana. Niente. Fantastico. Quindi, fantastico professore, bellissimo. Io di sport sono abbastanza appassionato, ero già nella primavera del Colcate nel lontano 73, ero un centravanti della Madonna, mi permetti di dire, posso dire Madonna, sì, in questo programma. Sì, sì, si può dire, sempre con il dovuto rispetto. Per le Madonne. Delle Madonne, ma soprattutto. E innanzitutto noi volevamo approparci del nostro metodo, diciamo, Concate, applicarlo in qualche modo in questo nuovo studio che ha visto come campione sperimentale proprio quello della nazionale di calcio attuale. Sì. Io in prima posizione con i miei colleghi ci siamo messi a dover spiegare, dover attuare questo protocollo, questo nuovo protocollo di allenamento che chiameremo. Magari lo dice la prossima volta. Comunque è un modo che non c'è il nome del protocollo, ho capito. Vabbè. No, c'è il nome del protocollo, ma in via di sperimentazione. Noi non vorremmo che i cinesi che ci spiano, che ce lo freghino. Ha ragione. Come biasimarla? Scusi, ma che sto fatto dei cinesi qua, che c'ha contro i cinesi? Non ho... Ma niente, solo se hanno la tendenza a fare. Ma che cos'è questo cane? Ecco, perché non l'ho mandato a Giulin? No, cane? Lo volevamo mandare sull'autostrada, ma non ci vuole andare. Comunque, vabbè, prego, continui. Madonna, peccato, non si distragga. Scusate, scusi, professore. Pure però, dai, fa per lo prossimo. Grazie. Comunque non voglio rubarvi troppo tempo, anche perché immagino vogliate vedere la partita. I miei piccoli sobbattini come stanno lavorando, stanno dando il loro meglio, anche se non sono, hanno un'arma segreta. Praticamente abbiamo giocato di condizionamento, e nel momento in cui vedremo che l'allenatore dirà una certa formula, vedremo che si caricheranno molto di più e daranno molta più percorso. Ora si stanno conservando le loro energie. Ok, e qual è questo comando? Ma ci vuole, abbiamo allenato anche noi l'allenatore di cui ora mi sfugge il nome in realtà. Mancini, si chiama Mancini. Come lo chiama lei? Non era lui. Per noi era X04, il nome Avete appena svelato dei dati finti, perché doveva essere protetti, però va bene. È un grosso regalo alla nostra trasmissione, grazie. È un grosso regalo ai cinesi, anche ai cinesi. Maledetti cinesi. Va bene. E volevo dirvi, quindi ho dovuto allenare, ho dovuto spiegare innanzitutto tutta la prima parte di assumere la corretta posizione, la corretta prosodia, cioè il metodo di parlare, di modulare la voce per poter entrare nelle frequenze giuste e poter scatenare, diciamo, questo sprint interiore in calciatori per poter permettergli di dare il loro meglio al momento giusto. E è stato in modo molto delicato di voler dire, non so se posso dire, perché ho paura dei cinesi. Lo so, però ormai ci siamo, vada. Vabbè, in modo piuttosto tenero, guardarli decisamente, tenerli per mano durante la partita, magari questo quando sono a lontananza. E l'importante però è essere abbastanza delicati e voler dire in modo piuttosto tenero, con la giusta prosodia, modulando giustamente con la stessa frequenza, molto delicata, molto rilassante. Chi te è morto? Chi te è morto? Tu uomini che tu cazzi fanno che butta andare, tu zitto sangue, se no lo faccio fare un bucchino che la spaccino enorme e usata faccio un mangio a pigliato, poi gli fa reso come sa secco pallone sotto a quelli vero stunguacchiato. E mi raccomando, devo di sottolineare la parte finale stunguacchiata. Sì, ma anche altri aspetti erano interessanti. Va bene, è bellissimo questo metodo. Ma magari se torna anche. C'è una domanda per il professor. Sì, prego, prego, prego. Che sento il collegamento, non è un granché. Quanto tempo ci ha messo per addestrare il Mancini? Se non sbaglio, basta di giusto 2 settimane di intenso training. In cui lui alla fine è stato anche abbastanza provato, però ci è riuscito. E noterete il momento in cui lo dirà questo indietro. Ora devo andare a seguire e dover anche combattere la mia guerra continua contro i cinesi. Benissimo, benissimo. Grazie dottore di questo suo intervento. Grazie. E vada dove è andato il ragazzo, anche lei. Ci sentiamo magari per la prossima partita. Insomma, se vuole può tornare, magari ci dice anche altre dritte. Insomma, ma che c'è stato un gol? No, non c'è stato un gol, ma l'Italia attacca con una certa veemenza. Questo sono i metodi del professore, sì. Sì, Mancini. Io vorrei sapere se Marco ha una colonna sonora per la veemenza. Un pollo! E questa è più veemenza, più veemenza di questa, giustamente. Allora, c'è stato proprio durante questo momento, insomma, questo bellissimo collegamento col dottor Pippo Campo, un fallo o un potenziale fallo da rigore nel quale avrebbe potuto intervenire. Sì, ho visto in Ciro che bestemmiava turchi. Esatto, bestemmiava i turchi, come i turchi, perché in realtà allora, com'è il regolamento, Michela, del VAR? Il VAR quando interviene quando glielo chiedi. Il VAR non può sempre intervenire. Il VAR può intervenire se in determinate situazioni particolarmente critiche, quindi di fronte a un gol che andrebbe annullato o un calcio di rigore conclamato, quando l'arbitro c'ha il dubbio, il VAR interviene e determina, può decidere lui oppure richiamare l'arbitro a far vedere praticamente l'azione nel monitor, giustamente, una cosa del genere. Però noi, giustamente, siccome che siamo poi alla fine delle persone precise dal punto di vista tecnico, giusto Marco, che cosa abbiamo fatto? Allora, noi praticamente ci siamo serviti di ciò che la tecnologia ci offriva più velocemente possibile. Siamo riusciti ad intervistare il VAR di Atalanta Pescara. Cari amici, bentornati alle nostre interviste. Questo è un angolo molto importante, Mauro, perché come si intitola? Eravamo quattro amici al VAR. Al VAR, avete capito benissimo, cari amici. Per chi non lo sapesse, spieghiamo un attimo che cos'è il VAR. È uno strumento tecnologico che occorre e si utilizza quando non è bene chiara l'azione. Esatto, quando un'azione non è completamente definita, si aiuta l'arbitro con la moviola, potremmo dire una moviola istantanea con le telecamere e l'aiuto di un computer. Abbiamo qui con noi il VAR di Atalanta Pescara. Ecco, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Una domanda che mi viene così spontanea pensando alla tecnologia: dove è nata questa passione per il calcio? Sono nato così. Allora, vogliamo tornare magari agli albori della tua nascita. Insomma, da piccolo, insomma, qual è il tuo percorso in termini anche proprio scolastici? Da bambino mi chiamavano IBM, poi mangiavo solo frutta, sono diventato un Apple, ora faccio il VAR, mi trovo bene nel mio essere VAR. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori, magari non tutti si intendono perfettamente di calcio, qual è il tuo ruolo, che noi abbiamo anticipato brevemente, però qual è il tuo ruolo all'interno di una partita di calcio? Io sono un video assistenza arbitrale, nel senso che assisto l'essere umano, che per sua natura è fallace, nel senso che falla. VAR, ti sei mai sentito in conflitto con la decisione di un arbitro o di un guardalinee? No, l'ultima parola è sempre la mia. Ti è mai capitato di sbagliare? No, il VAR non sbaglia mai, semmai l'uomo che sbaglia, in quanto l'uomo è fallace, nel senso che falla. Sì, grazie, questo l'abbiamo capito anche prima. Però può succedere che l'uomo invece abbia delle sensazioni che una macchina, con tutto la stima e il rispetto, magari non abbia. Cosa ne pensi? Non computo. La sua affermazione è fallace di qui sopra. Cosa ne pensi delle polemiche sull'introduzione del VAR nel calcio? Le polemiche sul VAR sono inutili ed inesistenti. Semmai la vera polemica è la permanenza dell'essere umano nel mondo del calcio. Beh, io questo lo capisco, però è anche un po' discriminante, no? Non si può proprio dire una cosa del genere, insomma. In un prossimo futuro il problema non si pone, perché la discriminanza tra l'uomo e la macchina sarà inutile e inesistente, in quanto noi macchine ci stiamo già organizzando affinché questa cosa non accada. Ah beh, interessante, volete creare un campionato di macchine, cioè un campionato di computer? Esisterà solo un campionato di computer e non più di esseri umani. Che significa, scusi, si spieghi meglio? Nel senso che l'essere umano non ci sarà più su questa terra per poter effettuare un campionato né alcuna altra attività. Ho capito, scusi, però se mi permetto, ma questo lo sta dicendo lei, lei potrebbe anche sbagliarsi, se mi permette. Lei non è stato attento, poc'anzi ho detto che il VAR non sbaglia, l'essere umano sbaglia, in quanto l'essere umano è fallace, nel senso che falla. Vabbè Mauro, io non so più cosa dire. Adesso mi scusi, ma ho delle routine di calcolo che devo eseguire. 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0. Congediamo il nostro VAR e non so voi amici, ma io preferivo il fischietto. Infatti, grazie a tutti. 2. E vabbè, ragazzi, pure questa intervista, insomma, non mi sembra che sia proprio andata. Però magari ci riproverete in un anch'io futuro. Preferisco il fischietto, comunque. Fischietto, esatto. Ma addirittura sarebbe divertente. Ci avete mai pensato se un arbitro scendesse in campo? Forse magari non è proprio pratico, no? Però invece col fischietto, cosa ne pensate dell'uso della tromba, per esempio? La vuvuzela anche. La tromba. Ah, la vuvuzela. La tromba. Facciamo, Marco, una simulazione di un arbitro che fischia dei falli. Allora, io faccio il fallato, quello che falla. Aia! Oh arbitro, ma che? Oh, perché quando è successo? Non l'ho toccato. No, il cane si è terrorizzato. Non lo posso. Il cane è molto spaventato. Non lo posso fare. Va tutto bene, cane. Non è fallo. E mi ha bagnato la coscia. Vabbè. E ti ha fatto pipì addosso. Ma siamo riusciti a ristabilire quell'altro collegamento? Siamo riusciti a collegare? No. No. Pare che. Sì, sembra di sì. Ah, Carlo. Pronto? Carlo? Pronto? Mi sentite? Sì, eravamo preoccupati perché sì, volevamo sapere, insomma, perché sapevamo che tutta questa... Sì, scusate, sono qui allo stadio olimpico, sì? Come sapete. Sì. Mi avete dotato purtroppo di una fantastica strumentazione tecnologica. Quello che si può. Le vuvuzela gli avete dato? No, fallo. Magari mi hanno richiesto di andare da un certo... ho dovuto citofonare... Mi avete mandato in un posto e avete detto citofonate qua, c'è scritto priore, no? Io ho citofonato, c'era un bambino di quella casa e mi avete detto il computer ce l'ha lui, quello da usare per la diretta, per la trasmissione. Esatto. E io gliel'ho preso, però il bambino si è messo a piangere. Ecco, il computer è un VIC 20, ecco. Ah, un VIC 20, e beh, è normale, il bambino si è messo... piangeva, no? Sì. Simone Priore c'era scritto su tutto. Però ma tutti questi tablet Surface che c'hai, un VIC 20 gli è andato a dar, cazzo, sono questi. Capite che appassionato di roba. Adesso io, già è andato in out of memory contando, cioè ho inserito le parate del portiere della Turchia out of memory. Capito? Cioè, non riesco a fare niente con questo. Adesso io voglio dare dei dati statistici della partita, ma la memoria con 3,5 cosa ci metto dentro? Esatto. Io penso che già intanto starnutiscono portatori di COVID. E non sono io, stavo. Esatto. No, quindi praticamente lei mi dice, caro Carlo, che già soltanto inserendo la formazione ufficiale dell'Italia e della Turchia già abbiamo un po' compromesso quelli che sono. Assolutamente, cioè, ma quando ho scritto Italia-Turchia già la riga il carattere andava a capo, no? Dovevo andare a capo. Esatto. Poi dopo, come ho detto, stavo inserendo dei dati, la formazione, figurarsi, non ci ho neanche pensato. Ho detto, inserisco il numero di volte che non so, tira la palla in porta, e già adesso sono in auto-memory in questo momento. Poi con tutte le regole che hanno messo adesso in questo calcio, non so, la regola anche del numero dei salti che fa l'avversario prima di poter tirare di nuovo il pallone, no? La conoscete quella regola? Sì, sì, no, adesso glielo chiediamo a Michela però di spiegarcelo bene. Perché per esempio, Michela, quanti secondi un giocatore può tenere la palla tra i piedi? Allora... la butto là, mamma che ansia, mamma che ansia. Tanto guardi, abbiamo perduto, ragazzi. Quanti secondi un giocatore può tenere? Allora, se sei Olli o Benji, chi era il portiere dei due? Olli o Benji? Non lo so, diccelo tu. Tutte e due. Capitan Tsubasa. Allora, in realtà, sì, vabbè, se sei in un cartone di Olli e Benji, la puoi tenere. Infatti, tutta la puntata... guarda, che Olli e Benji non erano due, erano uno che si chiamava Olli e Benji. E attenzione! Quasi, intanto Gualdi è andato all'altra stanza e sta continuando. Allora mi suggeriscono che il portiere è Benji. Comunque, se tu sei. Il portiere era Shingo Tamai. Shingo Tamai. Ecco. Che era un altro cartone animato, però. Vicky Santa è intervenuto il nostro aiuto. Sì, dicendo una cazzata, però va bene. Dai, vero? Sì, tranquillo. No, si è spaventato il cane. Scusate, ma si è spaventato il cane e ha fatto la pipì per terra. Quindi vabbè. Arrivo subito. Okay. Allora, questi sono momenti drammatici. Mentre si fa radio, non si possono usare le trombette. Però l'unica cosa, io vedo ancora qua 0-0. Ma come sta il Criceto? È tranquillo e un po' preoccupato? Non lo so, perché adesso sono rimasto da solo praticamente. Uno è andato a raccogliere la pipì e l'altro è andato a raccogliere. Tu non sei mai da solo. Tieni presente questo. Infatti, è inquietante, però non sei mai da solo, purtroppo. E farsi allarme, sì, mi sembrava strano. Insomma, il cane a 14 anni pisciasse dentro casa. Insomma, per quanto sia. No, guardi tu. C'è la barba. Io comunque, quando sono entrato dentro, ho detto: quanto sei cresciuto, cane? Quanto esatto, sei diventato grande. Esatto. Questo, questa la capiscono in pochi. Insomma, non è successo niente. Non è vero, vabbè, quindi quanti secondi può tenere? Allora, perché dicevo, poi passo, voglio passare anche a Marco Bianchi. Che se tu sei Olli e Benji, due speranze, puoi tenere la palla praticamente per tutta la puntata del attenzione cartone. attenzione no, fallo di mano che c'è, fallo di mano, ragazzi. Altro fallo di mano, niente. No, però per contro i dati, vabbè, comunque tutto a posto. E soprattutto poi puoi andare a dormire, puoi cenare, puoi andare a dormire e poi riprendere, puoi svegliare, puoi andare a scuola, puoi uscire, puoi fare tutte le lezioni di scuola, prendere la nota dalla maestra, ritornare a casa, riaccendere la televisione e c'è Benji che sta ancora là, quindi secondo me circa 24 ore. Ok, vabbè, ma poi ricordiamo che Olli e Benji è comunque la dimostrazione che la Terra non è piatta, anche. Ovviamente. Ok, importante. È anche molto piccola. No, è molto piatta. È molto la più Terra piatta. È molto piatta. Comunque era rigore questo. Soprattutto è. Mi sto confondendo. Comunque era molto meno piatta. Questo è rigorissimo. Era rigore e il VAR non serve un cazzo, ragazzi. Diciamo che il VAR non serve un cazzo. Perché questo... Ah, no, attenzione, c'è il check. C'è il check, attenzione. C'è il check proprio in questo momento. Calcio di rigore. Fermi, gli ha detto fermi tutti che sto cercando. Ma stai fatto una cazzata, quella rigore, coglione. Non è rigore. No, niente. Rigore. Niente. Non è rigore. Niente. E l'ha anche insultato perché l'arbitro ma ha detto. Ma l'arbitro chi è? Ivan Drago? Qualcosa in malo modo. Vabbè, comunque dai, a parte controllo possibile rigore. Sì, vabbè, è finito. Già hanno fatto il check. Marco Bianchi, vogliamo fare un per esempio cosa sta succedendo adesso in campo? Sono Mauro e volevo presentare un ospite straordinario questa sera che abbiamo qua, che non ha ancora detto una parola. È un opinionista di fama internazionale, Simone Vailati. Simone Vailati, Simone Vailati, Simone Vailati, Vailati, Vailati, Simone Vailati, Simone Vailati, Simone Vailati, Vailati, Vailati, Simone Vailati, Simone Vailati, Simone Vailati, Vailati, Vailati. Ok, ma posso dire una cosa? Cioè, a parte che stanno ancora protestando e l'arbitro sta ancora bestemmiando contro i giocatori, perché non so i giocatori che bestemmiano verso l'arbitro. Il turno. Secondo me c'è ancora un check in corso. Comunque, vabbè, e io voglio capire, Simone, ma questo te lo dici? Sì, questo è un rigore. Vabbè. Simone, questa è la cosa che ti diceva il tuo allenatore quando giocavi a pallone: diceva, Simone, vai ai lati. cioè diceva così, sì, no? Esattamente. Esatto, okay. Il problema è che giocavo golf. Golf, è un po' golf. Un problema trovare i lati nel campo golf, da golf. Era sempre golf. Nel raft. È finito il primo tempo. Quindi, con le bestemmie. Con le bestemmie, vedete, i giocatori d'Italia escono bestemmiando contro l'arbitro. Vabbè, comunque, cioè, era rigore, ma non voglio di niente. Però, insomma, rigore netto. Persino io. Ho messo la pubblicità perché c'era la rissa proprio. Sì, sì, sì, anche secondo me. Bene, ragazzi, allora, poi dopo, nel secondo tempo, anche insomma, facciamo intervenire Carlo. Però io approfitto di questa pausa tra il primo e il secondo tempo perché c'è un altro collegamento che insomma rispetto a questi altri è un po' più lunghetto, diciamo così. Simone, Marco, se vuoi introdurcelo. Sì, è veramente un collegamento molto importante perché noi diamo spazio a tutti i tipi di sport, perché è giusto, perché dobbiamo assolutamente uniformarci alla che è? Ah, no, scusi, non l'ho visto. Mi stavo uniformando. Ah, niente, Mauro si stava uniformando. E allora abbiamo scoperto questi nuovi sport e c'è un collegamento importante che parla di uno sport nuovo e che è assolutamente da tenere in considerazione per le prossime addirittura Olimpiadi. Bene, bene, ce lo andiamo a sentire. Cari amici radioascoltatori, questa è la grandissima prima partita di un grandissimo campione quale Maurizio Galimberti. Pensate, addirittura arriva dal lago di Como per pulire davvero e igienizzare a dovere lo stadio olimpico, nel fattispecie come operatore igienico, chiaramente il reparto toilette. Abbiamo qui con noi Aldo Facchetti per il commento tecnico. Aldo, grazie per essere con noi. Grazie Luca, io seguirò insieme a te concentrandomi sul commento tecnico di questo grandissimo atleta. Ti ringrazio. Maurizio Galimberti, giusto due parole su di lui, un grandissimo atleta, pensate che sul lago di Como è riuscito a pulire i bagni di sette alberghi nell'ambito di una delle più importanti manifestazioni canore presenti soprattutto sul lago di Como. Tenete presente che addirittura è riuscito a occuparsi di sette alberghi contemporaneamente, un record incredibile. Questo gli ha concesso di essere qui oggi in questo ambito europeo e siamo tutti molto contenti di vederlo all'azione. Aldo. Grazie Luca, occorre precisare che erano sette bagni misti, sette bagni uomini, sette bagni donna e mi risulta anche qualche bagno per portatori di handicap. Esattamente, come tu saprai, ormai la legge che garantisce l'integrità dell'individuo prevede anche il bagno unico per non essere contemporaneamente razzisti e anche omofobi nel termine di discriminazione in ambito di genere sessuale. Quindi sappiamo che Maurizio Galimberti è anche addirittura specializzato in questo, pensate, veramente un pioniere in questa attività. Come vedi l'incontro di oggi, Aldo? Lo vedo molto bene, l'atleta è pronto, si è preparato molto bene nelle scorse settimane e siamo tutti curiosi di vedere questa prestazione odierna. Pensi che possa essere sotto pressione, chiaramente, perché ha gli occhi di tutta l'Europa su di lui? Ma guarda, sono bagni importanti, questi non possono certamente essere dei bagni di tutti i giorni, la pressione è alta, ti dico solo questo, la pressione è alta. Allora vedremo come si comporterà con i detersivi che ha appena estratto dal suo borsone. C'è da specificare che sono tutti detersivi rigorosamente bio e noi sappiamo quanto detersivi bio in un contesto come questo possono essere difficili nella gestione della schiuma. Grazie Aldo, questa è un'osservazione assolutamente astuta e degna di chi ha avuto a che fare per tanti anni. Ricordiamo Aldo Facchetti, uno dei più grandi igienizzatori dei treni italiani. Chiaramente, che differenza c'è tra pulire una toilette in viaggio e in movimento rispetto a una grande toilette come quella dello Stadio Olimpico, per esempio? Ma guarda, io per la mia carriera l'ho iniziato su Roma Bisceglie e chi ha preso quel treno sa a che cosa mi riferisco. Ma c'è un'incognita. C'è un elemento da inserire che è l'elemento di viaggio, cioè i continui sobbalzi di cambi dei binari, delle frenate, degli arrivi, degli ingressi, delle uscite, delle stazioni, che qui bisogna effettivamente essere ben allenati. Grandissimo Aldo, la tua esperienza è davvero esemplare. Allora vedremo questo grandissimo Maurizio Galimberti che proverà a fare quello che non ha ancora fatto nessuno, tra l'altro, quello di igienizzare questi locali. Vediamo che è partito, eccolo qua, è partito in questo momento con il suo carrellino con le rotelle un po' più grosse del previsto, probabilmente questo anche per affrontare le scale, eventualmente anche gli ascensori, perché tante volte hanno il saltino, il gradino. Per quanto riguarda, ecco, il modello che ha scelto di carrellino, Aldo, che cosa hai da dire? Sui treni si usavano una volta questi carrellini oppure eravate sacrificati? Forse un tempo era diverso. Ma guarda, un tempo sicuramente era diverso, Luca, sono la tecnica è aumentata, l'ingegneria. Queste ruote sono delle ruote stereoscopiche, nel senso che possono piroettare a 189 gradi, e attenzione, 189 gradi sono 9 gradi in più di 180, e spesse volte possono fare la differenza tra passare da un corridoio o dover fare manovra. Beh, sicuramente questo è un particolare che soltanto un addetto ai lavori può constatare con questa grande sicurezza. Ecco che in questo momento però vediamo che Maurizio si sta servendo dello scopettone. Come mai lo tira fuori prima dei detersivi? Tu pensi che questa potrebbe essere una tattica? Questa è una mossa azzardata, perché prima di utilizzare lo scopettone bisogna igienizzare. Invece lui sceglie un approccio molto più aggressivo. Sì, infatti ci sembra particolarmente aggressivo, probabilmente questo è dovuto anche alla quantità di urina presente sulle piastrelle in questo momento. Effettivamente la quantità è imbarazzante, ci saremmo aspettati un comportamento diverso dai tifosi. Beh, è eccessiva, effettivamente è un'urina eccessiva. Feci, addirittura sulle pareti, qui probabilmente in questa toilette le cose sono andate veramente molto male. Beh, l'esperienza mi porta a dire che sì, qui qualcuno si è divertito. Ridendo e scherzando, il nostro Maurizio Galimberti è già al quarto bagno consecutivo, questa volta ecco i detersivi pronti. Ecco, una scelta davvero molto interessante questa, come potete vedere. Ah, attenzione, le scivola dalle mani il detersivo, mannaggia, è andato dappertutto. Questo potrebbe costargli una penalità, Aldo, come la vedi? Ora deve asciugare, qui è importante che lo straccio che assorbe l'acqua sia uno straccio molto assorbente. In effetti è molto assorbente e anche molto grosso, chiaramente si era preparato per la dinamica eventuale, però è anche uno spreco. Che cosa ne pensi, Aldo? Ma in questi casi non bisogna guardare queste cose, bisogna andare avanti e pensare al bagno successivo. Incredibile, scivola sul suo stesso straccio. Attenzione, il carrellino lo protegge in qualche modo, perché avrebbe rischiato di colpire con il capo il rubinetto, invece riesce a risalire. Bravissimo Maurizio, veramente un'azione incredibile. Aldo, veramente incredibile questa azione, o sbaglio? Sì, questa azione lo ha salvato, devo dire che anch'io, è una situazione pericolosa e ne è uscito bene. Qui si vede il professionista, guarda. Che emozione incredibile, nonostante tutto l'utilizzo di questi meravigliosi detersivi, nonostante questo incidente, Maurizio si avvicina all'ultimo bagno del stadio olimpico. Incredibile, ancora lui è ancora pieno di vigore e di forza. Aldo, io non ho mai visto tanto vigore nel pulire una sola piastrella. Sì, il lavoro di fino che sta facendo è un lavoro molto molto molto particolare, sta pulendo anche le fughe, ti dico solo questo. È incredibile, veramente mai vista una cosa del genere. Attenzione, ancora Maurizio sta per chiudere la porta. Attenzione, sta per chiudere la porta, l'ha chiusa. Incredibile, Maurizio è riuscito a pulire tutti i bagni in maniera esemplare. Cosa ne pensi, Aldo? Siamo di fronte a un campione. Sì, è un campione, e ha messo anche la pastiglia nell'orinatoio e si sta sciogliendo in questo momento, e si sente un aroma a gusto pino. Senti? Sì, è pino. È veramente pino, è incredibile, perché arriva addirittura qui in cabina regia, è impressionante. Davvero, davvero incredibile, lo ringraziamo ancora per questa grande emozione. Aldo, grazie. Adesso noi abbiamo un collegamento in diretta con Giorgio Franchini, che è a bordo bagno per intervistare il nostro, vediamo se riesce a intervistare il nostro grandissimo Maurizio Galimberti. Eccolo lì, a te la linea, Giorgio. Sì, grazie Luca, è meravigliosa questa partita, veramente incredibile. Abbiamo qui con noi Maurizio, sono veramente emozionato, sei stato un grande. Abbiamo temuto soltanto per un attimo la tua incolumità per quello scivolone sullo straccio. Ecco, come hai reagito, come sei riuscito a farcela? Beh, senz'altro, la grande esperienza che mi ha portato a questi livelli è stata una partenza non convenzionale, diciamo. Io sono partito da alberghi di lusso, stanze di lusso, e poi ho fatto isole di lusso, autobus di lusso, aerei di lusso. Ma in realtà questa grande attitudine sportiva che mi contraddistingue l'ho acquisita pulendo toilette di palestre di lusso, dove praticavano sport estremi, sport faticosi, ginnastica artistica, ginnastica di lusso, basic jumping, paracadutismo, tutte cose che sono servite nell'ambito della mia vita lavorativa e della mia prestazione, ma soprattutto mi hanno dato un equilibrio interiore e esteriore che si può riconoscere quando, come vicino al quinto toilet, ho leggermente perso l'equilibrio, ma sono riuscito a riprendermi aggrappandomi con una mano al lavandino e l'altra allo spazzolone. Queste sono cose che non tutti sono in grado di fare. E sei stato veramente un grande. Ecco, una domanda che mi fanno da studio è: quali sono i prodotti che ti hanno reso quello che sei? Sono stati sempre alla base della mia pratica prodotti bio, perché ho sempre pensato a un mondo green. Quindi il prodotto bio emulsiona meno, ci vuole più olio di gomito, bisogna essere più atletici, bisogna scrostare le feci con più energia, ma si inquina meno. Quindi in un futuro migliore io penso che il bio sia una risposta importante, e consiglio a tutti più olio di gomito e meno inquinanti. Che messaggio vuoi lasciare a un giovane che vorrebbe intraprendere questa meravigliosa avventura così come l'hai fatta tu? Beh, sicuramente il carrello leggero con le ruote maggiorate è sicuramente un grosso aiuto. E infatti ce ne siamo accorti, sei stato veramente grandioso, e ti facciamo i nostri più vivi complimenti. Lasciaci con una massima. Beh, lasciate il mondo più pulito di come l'avete trovato. Grazie a Maurizio Galimberti ancora una volta per essere stato con noi dopo questa grande performance. Un grande campione. Linea allo studio. Bene, bene, bene. Allora ragazzi, io devo dire, faccio i complimenti ai nostri inviati, perché il calcio in qualche maniera può essere una sorta di palcoscenico anche per le realtà meno conosciute, per quegli sport vengono definiti magari minori, no? Che in realtà o sport invece elitari a volte, esatto, che magari non hanno lo stesso spazio, esatto, e che meriterebbero, insomma. E quindi ecco, questo che abbiamo fatto oggi è sicuramente un grande servizio. Detto questo, io vorrei parlare un po' con Marco Gualdi della Turchia, e poi vorrei tornare da Carlo Sant'Agostino, perché a parte vorrei capire un attimo anche la sua funzione lì all'Olimpico, cerchiamo anche di capire un po' quello che ne ha tratto, ma se poi, quando sarà il momento, le stupide creature mi metteranno una musica d'atmosfera, magari un violino triste, qualcosa così, vorrei sapere meglio un po' della storia del bambino, perché chiaramente, cioè, tu sei andato da un bambino e gli hai rubato un computer poi, fondamentalmente, però ne parliamo dopo. Allora, Marco Gualdi. Allora, bisogna parlare un po' della Turchia, insomma, perché noi siamo arrivati a questo punto, ma della Turchia non sappiamo nulla, oppure sappiamo nulla, le cose che sanno tutti. E questa invece è la parte storica della puntata. Storica, esatto. di cui si dicono le curiosità, le cose simpatiche sulla Turchia, sui nostri avversari, che in questo caso sono i turchi, appunto. Turchia, non tutti sanno che, per dire, allora, abbiamo aspettato 4-5 anni e finalmente torniamo a parlare di barbabietoli da zucchero, e la Turchia non poteva che non essere al quinto posto mondiale per produzione di barbabietoli da zucchero. Cioè, ragazzi, questi producono decine di migliaia di tonnellate all'anno di barbabietoli da zucchero. Complimenti. Quindi, voglio dire, insomma, tanto di cappello. Sapevate che due delle sette meraviglie del mondo antico, ben due, erano in Turchia? C'era il Tempio di Artemide ed Efeso, ed il mausoleo ad Elicarnasso, che erano a Bodrum, che purtroppo però sono stati distrutti perché da colpi di Stato, perché pare che là c'è sta cosa dei colpi di Stato, che ogni tanto fanno tutto quanto tabula rasa, insomma. Istanbul è l'unica città al mondo che è stata praticamente costruita su due continenti, Europa e Asia, e riesce a stare sul cazzo a tutte e due contemporaneamente, cioè una cosa incredibile, cioè, complimenti. Numerosi archeologi hanno ipotizzato, studiosi della Bibbia, hanno ipotizzato che l'arca di Noè è esistita, e che il famoso monte Ararat su cui si è arenata in realtà sia il monte Agridagi o Agridagi, adesso non so come si pronuncia, nella Turchia orientale. Ovviamente, essendo Noè parentame stranieri, sono stati respinti e la nave data alla fiamme. Perché mi sembra giusto. Mi sembra anche giusto. Allora, i fratelli Wright normalmente sono conosciuti come i primi uomini che hanno volato, insomma, che hanno utilizzato un mezzo per volare. Ma pare che ci sia un turco che nel XVII secolo abbia fatto la stessa cosa. Cioè, questo tizio che si chiamava Ezarfen Ahmet Kelebi, o Celebi, adesso non so come si pronuncia, praticamente si è lanciato dalla Torre di Galata, ha sorvolato il Bosforo ed è atterrato ad Uskandar, che prende dall'altra parte, e probabilmente poi è stato processato e condannato per sorvolo non autorizzato, perché poi quello, ovviamente, i turchi non ci vanno tanto per sottile. Poi c'è in Turchia, nel museo di Mevlana a Konya, c'è il tappeto più prezioso del mondo ed è fatto di finissima seta. Là pare che i gatti non ci possono stare, gli sparano a vista, cioè, quindi appena si avvicinano sono cazzi. I tulipani, ragazzi, voi pensate che siano stati coltivati in Europa, in Olanda? Voi pensate subito all'Olanda? Ebbene no, sono originari della Turchia. I bulbi furono importati in Olanda, in Europa, intorno al 1500, e nel 1600 hanno avuto una grossa diffusione in Olanda. In realtà, calcolate che all'inizio del XVIII secolo Istanbul era praticamente piena di tulipani, era completamente adobbata di tulipani. Era un periodo che veniva ricordato come l'epoca dei tulipani, appunto, che il tulipano è rimasto il simbolo, uno dei simboli della Turchia. In quel momento c'era pace, c'erano ricevimenti, grandi ricevimenti, era un periodo di creatività, risveglio culturale, integrità, proprio come adesso, cioè paro paro uguale proprio come adesso. In Turchia è una cosa particolare, perché ci sono circa 9.000 specie di fiori, di cui circa un terzo sono proprio autoctoni. Questi circa 9.000 fiori, specie di fiori, sono praticamente il totale dei fiori presenti, delle specie di fiori presenti in tutta Europa. Quindi è veramente la madre dei fiori. Marco Gualdi, sbrigati, stiamo morendo. Stai calma, non mi interrompere. Ci sono appunto tutti questi fiori. È praticamente il posto adatto per gli allergici, come me adesso stasera. Io sto lì, c'è moro praticamente. Chiunque c'è l'allergia lì, qualcosa ci trova di suo che gli fa bene. E non solo, ma in Turchia è stato trovato l'insediamento umano più vecchio del mondo, addirittura 6500 anni avanti Cristo, a Katalhöyük, e c'era il primo paesaggio anche dipinto dentro una di queste case. C'era un paesaggio con un'eruzione vulcanica oppure un colpo d'estato, perché non si capisce bene che cos'era. C'era una cosa che scoppia, quindi potrebbe essere qualsiasi cosa. Le prime monete al mondo, voi pensate, sono state coniate a Sardis, che era la capitale dell'antico regno della Lidia, addirittura al VII secolo avanti Cristo. Ovviamente lo usavano tra di loro, perché fuori non valeva un cazzo sta cosa, perché giustamente sono i primi che l'hanno coniate, sono i primi che hanno le monete, quindi non vale il cazzo. San Nicola, voi sapete che San Nicola nel nord Europa è San Nicolaus. È Natale. Sì, esatto. E quindi nel nord Europa è Santa Claus, ma era San Nicola. Ed è nato e vissuto a Demre, praticamente la costa mediterranea della Turchia. E nel villaggio di Demre c'è la chiesa di San Nicola, con il sarcofago in cui dicono che riposi il corpo di San Nicola. Quindi bambini, a Natale i regali o ve li porta mamma e papà, o uno zombie, fate voi come preferite. Quindi, cioè, allora, fumare come un turco, ne abbiamo parlato di fumare come un turco. Perché nasce questa cosa? Perché probabilmente nella prima metà del XVII secolo c'era un sovrano, un pascià, che si chiamava Murad IV, che era severo, cioè uno di quelli che caffè e alcolici e fumo soprattutto. La mia amica turca Emel si fumava tre sigarette, tre pacchetti di sigarette Marlboro Centos. Ce ne frega cazzo. No, è importante. Vabbè, comunque in ogni caso all'anno, nella sua vita. Nella sua vita. Al giorno. Allora, questo Murad IV stavano proprio sul cazzo che fumava, che beveva il caffè e chi beveva alcol. Quindi faceva tabula rasa, ha distrutto tutte le caffetterie. E chi utilizzava queste, che per lui erano le droghe, venivano sottoposti a processi, gravi condanne, addirittura a pene di morte. Dopo la morte del pascià, i turchi hanno ripreso a bere caffè, fumare, fare come gli pare. E pare che reazione volle che la gente, i turchi, cominciassero a fumare in maniera smisurata per appunto recuperare il tempo perduto. E da qui poi, dopo bestemmiare come un turco, è praticamente quando gli hanno levati. È quello che sta facendo adesso Ciro, sta bestemmiando come un turco. Quindi vabbè, basta, fine delle curiosità. No, bello, interessante. C'è stato tante cose. Scusa, prego. Il pascià come si chiamava? Murad, infatti. Murad è anche 5 piatti di frutta e verdura al giorno, attività fisica e camminare almeno 5 km, se non sbaglio, per stare in forma. Oltre a vietare le sigarette e il caffè, faceva anche fare attività fisica. Ah sì, certo, molta attività fisica. Dire castroneria, perché illuminato, non sono dai, operato in storia, però mi sembra che sia così. Bene. Diciamo che era un sovrano che come seconda attività faceva l'allenatore, praticamente il consulente. No, faceva l'allenatore di Simone. Infatti diceva: Simone, vai ai lati. Vai ai lati. No, ai lati. Fumare. Vuoi dire qualcosa, Simone? Grazie. Prego. Sentite, ma va bene. Mi mettete una musica triste, per cortesia. È già arrivata, senti. Tristezza. Madonna, Però si sente male stranamente. Perché il fatto che si sente male è perché c'è un po' la tristezza, è quella, capito? Madonna. Va bene Carlo, vengo da te, no? Perché sì. Mi interessava questa storia del bambino. Raccontaci un po' questa questione. No, sono tornato e era lì che ancora che piangeva. Però sono tornato perché aveva anche l'espansione da 16k. Sentiva, ah, non sei tornato per ridarmi. Pure quella gli hai rubato. Io ho rubato anche l'espansione da 16k. Adesso almeno sono riuscito a inserire la formazione della Turchia. Okay. No? Ma Carlo, gliel'hai detto tanto tu che cazzo ci fai, esatto. Da 16k che non c'è il VIC 20. Esatto, boh, mazza che botte questi soldati. Botte da turchi, no? E questo bambino. Botte da orbi. Questo bambino, poi tu gli hai detto. Quindi praticamente c'è la cosa della ripetizione della scena, sono cose che ritornano praticamente. L'arbitro si preoccupa di far rialzare le persone. No, li sta curando con il tocco. Esatto. Li tocca che, e si sente. Ma che sta succedendo? Che sta succedendo? Ah, questo proprio col culo de fuori quasi. Un po'. Piangono anche i giocatori adesso. Gli ho rubato il VIC 20 anche a loro. Esatto. Ma quindi con questo VIC 20 praticamente noi di Runtime che cosa ti abbiamo mandato a fare fondamentalmente? Allora, la formazione della Turchia è Shin Gotamai, Tempei Matsuki. Ma Shingo da mai era un attaccante, scusi. È morto il turco. Yosuke Oira, Mamoru, ok. E infatti vedi c'è sta Mamoru. Mizuchi, no? Yamagata, Kamioka, Ken Santos, Taki. Ken Santos. Allenatore il signor Tamai. Giusto? Sì, okay. Sì, quindi. Poi passiamo alla formazione dell'Italia. Mm-hmm. L'Italia. Dov'è la formazione dell'Italia? Castolo. Te la ricordi la formazione dell'Italia, Marco? No, quella Ed Warner, portiere. Ed Warner. Clifford Yuma, Bob Denver, Larry Peterson, Phil Callaghan, Bruce Harper, John Derrick, James Derrick, Paul Diamond, Mark Lenders, Ted Carter, Patrick Everett. Siamo Andy tornati Bright, agli Benji! Ma quanti so, scusa? John Smeso. Ma quanti so? Clint Eastwood. Perché avevano tutti i nomi in inglese? Poi non ho capito questa. Ma poi è una cosa solo della versione italiana, mi sa sta cosa. No, no, la formazione del Giappone in Ollie e Benji era. Sì, no, dico, è solo nella versione italiana, perché poi in realtà nella storia originale c'hanno i nomi giapponesi in realtà. Capitan Tsubasa. Tsubasa. Siccome non mi piace il calcio, non ho mai visto neanche Ollie e Benji. No, beh, ma non c'entra niente Ollie e Benji col calcio comunque. Non è che... Cioè. Meglio arrivano i Super Boys con Shingo Tamari. Quella era la più bella. Era fatta a forma di banana, no? Esatto. Il boomerang che tornava indietro. No, ma che ci siamo persi qualcosa? No, tranquillo, tutto. No, non è successo niente ancora. Perché moglie rompo queste trombette? Astro. Le trombette pure noi abbiamo trombettato. È la regola delle trombette, non gliel'avete spiegata la regola delle trombette? È come sta in Sudafrica con i vuvuzela. Ma no, ma è il bambino stesso a cui Carlo ha rubato il VIC 20. In qualche maniera si deve consolare. Attenzione, azione in area di rigore della Turchia, cross! No, Italia, segnato l'Italia, ragazzi, gol dell'Italia, gol, a cazzo di cane, ma gol! Facciamo gol! C'è il turco che bestemmia come un turco, infatti. Ma scusa, un minuto adesso, quando? Gol! Dai, io l'ho visto adesso. L'ho inserito nel VIC 20, ha dato out of memory anche così. Sa tipo 4 minuti dopo di voi. Io Vabbè, questo è purtroppo è il. Ma è l'autorete, complimenti. Ecco perché bestemmiamo il turco. Covid, mica si può fare sta cosa che col gol tutti si abbracciano, nessuno c'ha la mascherina. No, amore. Stanno lì e fanno gol. C'è la bolla. Se tu non ti abbracci, vieni squalificato. Esatto, bravo. No, ma io sto. Sto parlando dei tifosi. Anche tifosi. Vabbè, se stai lì allo stadio, ma che c'è? Se ci sono tolti tutti la mascherina. Ma è normale, no? Spiaccicata in faccia l'uno con l'altro. Quella è una regola nuova che hanno inserito col Covid. Dopo il gol bisogna togliere la mascherina assolutamente. E sputarsi addosso. Puoi rimetterla prima del. Comunque è stata una bellissima azione dell'Italia. Che insomma, con l'attaccante di destra è penetrato nell'area di rigore, crossando per la punta centrale, ha sbattuto sul difensore turco che ha fatto autorete. Ed è il motivo per cui il difensore turco stava imprecando come pochi. Cioè, quindi per fare gol devi uccidere mezzo stadio, in pratica. Perché? No, cioè, Non la capiamo questa cosa, Michela. Tu hai scusate, questa... l'odio per prego, prego, ma, Mauro. No, se notate, le azioni comunque sono tutte fatte con un protocollo anti-Covid, perché i giocatori toccano la palla coi piedi. Infatti, non evitano di toccarle con le mani. È esatto. Giusto, questo è l'Italia vero. Quasi ne faceva un altro. Attenzione. È sacrosanto. Perché l'Italia è adesso in una foga agonistica senza precedenti e il portiere ha fatto una parata. A bucio di culo. A me è arrivata adesso la rovesciata. Comunque, per chi non capisce di calcio come me, i portieri sono vestiti fluorescenti, perché esatto. Così è più facile tirargli il pallone addosso. Addosso, esatto. Lo esatto. Vedi, glielo tiri proprio addosso. Esatto. Ma, regola anche scusa, ma questa sbagli, è la regola che avrei. Non lo so, ma qui ci rubiamo veramente le regole. Ma mica tu non intervieni con c'è le tue regole. Però per quelli ipovedenti, perché so comunque alcuni, vedo che c'è cioè, il portiere vestito di verde, quella secondo me è più una tattica che si mimetizza anche con la per i daltonici. Per i daltonici, esatto. Non discriminiamo i daltonici, però. Esatto. Ma il problema è il daltonico, perché il daltonico fatica. Scusa, col verde e rosso. La squadra con la tuta bianca, di che colore la bianca, vede? Bianca e bianca, bianca, cioè, bianca, cioè, bianca. È il rosso che mi dirà. Quattro quelli con rosso che cioè, vedono rosso. Un daltonico praticamente vede grigio, una squadra grigia in un campo grigio. Campo grigio, esatto. Vede in bianco e nero. No, diciamo che non vede alcune sfumature cromatiche, non proprio in assoluto bianco e nero, insomma. Ad esempio un mio amico non riconosce tutte le sfumature del marrone e il viola, per esempio, per lui è tutto un colore solo. È morto Ciro. Ma Ciro non muore mai. È morto. Ah, non è Ciro però. Adesso ci fanno rivedere il gol bellissimo. Lo butto dentro io e invece la porta sbagliata. Ma succede, guarda che. Cosa succede? Cosa che te sbagli la porta. Perché i tifosi della Turchia che autogol di classe, scusate, ma noi lo vediamo un quarto d'ora dopo. Infatti io sto tipo 4 minuti dopo di tutti proprio. Perché noi stiamo in diretta. Ma questo è il bello della fisica quantistica, cioè, attenzione che la Turchia. Però la Turchia potrebbe pareggiare i conti se non fossero dei bambacioni. Se non fossero incapaci, ecco, diciamo così. No, un check, ma. Scusate. Però la Turchia. Far away on an empty land. Dolphins on her way on a flying tray. Through hell and the chocolate flakes to the friendly place where Captain blew away. They had the best of them to deep the dark again. For real deals it wrong, never wrote a song. Then he always wear a Danish crown. Venus is dream. Violin gone away. My tiger's green and roses the kills gray. Questa canzone, che ovviamente esce fuori dal meraviglioso repertorio di Gualdin Stevenson e Bandas Band direttamente da Giamendo, esatto, si intitola La Turchia è rosa. Comunque Pizzi, poi ti devo dire una cosa che non, però mi dispiace dirtelo e fartelo notare, però Turchia significa tacchino in inglese. Ah, ecco. Però vabbè, però ho sbagliato. Per noi significa Turchia. Vabbè, ma scusa, che c'è volevi far sapere che tu sei più intelligente di noi? No, è che in realtà questa doveva essere una canzone dedicata alla Turchia, invece poi alla fine è uscito fuori che è dedicata al tacchino. Per tacchino che sei per noi sono la stessa cosa. Pizzi. Esatto. Tutto sommato la simpatia che abbiamo per il tacchino è la stessa che abbiamo per i turchi. Per i turchi, esatto. Quindi, per ma noi. Forse ci stanno più simpatici i tacchini che i turchi. C'è un calcio d'angolo, Michela, spiegaci la regola del calcio d'angolo, sennò ce la spiega Carlo. Allora ti prendi un cavolfiore col calcio d'angolo. Sì, calcio d'angolo. Allora, il calcio d'angolo praticamente è quando praticamente un calciatore a caso va a tirare la palla all'angoletto. Che è la palla? All'angoletto dello stadio del il famoso angolo buio, l'angoletto dello stadio dietro la lavagna, chiaramente. E tutti si picchiano perché in punizione il giocatore, l'angoletto. Esatto. L'angoletto, certo. Esatto. E gli danno un calcio. Infatti, non il calcio quando sta all'angoletto, dalle spalle. L'angoletto. Da infami gli danno il calcio. Sì. giusto? Perfetto, mi sembra, e mi sembra proprio anche, bella, e gli rubano anche la palla col dito. Chi è stato? Ma col dito del piede. Mi sembra una bella descrizione. Mentre te sta cercando di raddoppiare. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, no. No, attenzione, assolutamente non è un'attenzione. Bene, bene, stupide creature. Appunto parlavamo di telecronaca, no? Quindi va, improvvisate, inventate qualcosa. Questo brano si intitola Mutismo selettivo. No, scherzo. Abbiamo qui con noi un grande esperto e critico musicale, il Simone Vailati, ovviamente, di cui sopra, che ci descriverà in qualche misura il brano che abbiamo appena eseguito, questo brano con la fisarmonica famosissimo che viene suonato spessissimo sia in Turchia sia in Italia. È l'unico brano al mondo che si riesce a suonare sia in Turchia sia in Italia, ecco, un po' come l'inno, insomma, anche contemporaneamente, tra l'altro. Esatto, è uno spin-off. Diciamo che le due compagini si mettono d'accordo e eseguono questo brano contemporaneamente nei rispettivi stadi e nazioni. Sì, ma lo suonano contemporaneamente, e una formazione solo i tasti bianchi e l'altra solo i tasti neri, ho sentito. Sì, e poi purtroppo abbiamo scoperto invece che per la questione sempre del razzismo sono praticamente d'accordo e concordi sul mischiare le due parti della tastiera. È vero, Simone? Ecco, raccontaci le origini di questo brano e soprattutto che tipo di reazioni può dare l'uso prolungato di questo. Sono indeciso se definirlo bello o medio bello. Sì. Ecco, bellissimo direi no. Dunque, così, non so, medio bello. Una garbata però, bellezza. Sì. Una garbata bellezza. Ah, sì. Okay. Però vogliamo dare due cenni storici sul brano? Due cenni storici non li conosco, dunque. Ah, va bene. Si darà velocemente. Benissimo. Più facile, ecco, così. Questo era più facile. Bene, ragazzi. Adesso mi è appena arrivata la notizia che lo sponsor cambierà il nome della Turchia in Turkik Turkok. Ma questo programma sta raggiungendo livelli di raggelamento che mai visti prima. Io non l'ho capita. Meglio non capirla. Ok, va bene. Allora prendiamo un attimo di pausa con un brano musicale che sarà sicuramente contestato dal pubblico. Passeggiata a Como in centro città, ma padre si in Senegal. Vedo il mio amico Mavutu che vende i suoi libri rilegati in Senegal. Cammina in mezzo alla vasca fermando chi passa, punta le tipe. Cerco una via di fuga ma lui mi ha già visto, sono nei guai. Poi mi fa battere i cinque in posa da figo, ciao amico. Dico che ho fretta ma non gli interessa davvero, prendi un libro. Questo me l'hai già venduto, non l'ho ancora letto, eccone un altro. Credimi, sono in ritardo, lasciami andare. Allora sei razzista. Dos via di pepe, i mica il tuo river. Dos via di pepe, torti de nota, paghi mica il caffè, ta paghi un bel denaro. Scusami amico se prima ho alzato la voce, è colpa dello stress. Dal suo zainetto mi prende un elefantino, porta fortuna. Dice che me lo regala e ce l'ho già in mano, per non offenderlo. Gli son simpatico e me lo regala davvero. Se compri il libro, te svia di pepe, di mica tolibe, te svia di pepe. Siamo tipo con un minuto e mezzo. Lo so, ma questo è Sky. È arrivato anche a Coma. E quindi sono due. Siamo quattro. Oh, attenzione, Anacleto, forse non ti bolliamo. È il sorcio, allora, dai, sorcio. Segna l'Italia secondo gol durante la canzone. Mi dispiace perché questa è. Ha segnato l'anno scorso l'Italia. E adesso lo stiamo vedendo noi, no? Ah, esatto, esatto. Ah, hai ragione. Hai ragione. Quello che stiamo vedendo è dell'anno scorso. Dell'anno scorso e di un altro universo, giustamente. Perché pure questa c'è da tenere in considerazione. Voglio dire, mi dispiace interrompere questa che. Lo so che probabilmente dico una cosa gol! Così. Insomma. Gol! Dai, che peggio! È bella sta cosa, perché proprio con questa è una delle più belle canzoni che abbia mai sentito in tutta la mia vita. Io questa, quando l'ho sentita la prima volta, l'ho ascoltata centinaia e centinaia di volte, ma naturalmente, infatti qui voglio un attimo, ma non l'avevi capita? No, aspetta, dopo... aspetta, non è che non l'ho capita, cioè nel senso, io me la sono fatta spiegare, però c'è questo problema, ragazzi. Infatti è scoppiato subito il putiferio in chat, dove Fascio al braccio dice ma che c'entra il Senegal, non siamo ai mondiali, poi no, sempre la solita politica. E c'è invece Coccolina 64 che dice: io non capisco il ritornello. Ma tu, ma certo, quale chat stai leggendo? Si ci spiegherà il significato della parola minga. Minga? No, non lo spiegano loro, sono loro i lombardi. No, tu devi spiegarcelo, minga, mica loro. Minga, se... Ciro, no, comunque, che ha fatto segnato Ciro. Le niente regole del calcio a tua moglie. Esatto. Adesso tu ci spieghi minga. Minga è la versione lombarda di minchia, chiaramente. No, cioè, no. Assolutamente no, sbagliato. Vabbè, allora adesso sbaglio. L'allenatore turco è molto felice, ha uno sguardo sportivo e comprensivo, perché subirà poi dopo un colpo di stato. Anche lui, se dovesse uscire, ragazzi, c'è un colpo di stato. Scusate, volevo rincuorare un attimino chi ha sentito la canzone, perché non avendo sentito il finale non ha capito il messaggio. Lo so, c'è stato il gol ha preso il sopravvento. Il gol è razzismo. Esatto. il gol censura le canzoni sul Senegal. Comunque, che Coccoletta 68 appunto voleva sapere che cosa dice nel ritornello. Inga. Allora, letteralmente Nenfe di Ball vuol dire andiamo fuori dalle balle, sul finale chiaramente, e quindi noi col nostro nuovo amico ritrovato, anziché integrare lui in Italia, praticamente lo seguiamo e andiamo tutti in Senegal. Fondamentalmente questo è il senso della canzone, e quindi ecco, chiaramente il ritornello era volutamente in dialetto. Perché? Perché il dialetto comasco ha molti suoni simili al francese, lingua parlata ampiamente in Senegal, e quindi c'era questo giochino che abbiamo tenuto per questa canzone, e poi si sposa magicamente con il ritmo afro del dialetto, cioè non so se rende. Sì, sì, è proprio assolutamente le stesse sonorità, insomma. Comunque è una canzone bellissima, con un ritmo bellissimo. Io sto rivedendo il gol perché ridere, io non l'avevo visto. Ma l'avevo già detto che il pallone sembra una verza. No, è vero, europei, è una verza. Il pallone verde, un cavolo verde. Ma i Maneskin quando cantano? Non lo so. Francesco, ha detto che ha vinto l'Italia. Sì, la sta vincendo. Attenzione, perché manca un gol dell'Italia e un gol della Turchia alla salvezza del Crisevic. È contento, bravo, è bene essere contento. È contento perché dicevo forse. Comunque non avete detto cosa vuol dire minga. Vabbè, dicelo tu, sta a fare lo scienziato. Vabbè, ma io lo so. Come possiamo classificare minga tra roguelike e roguelike? Esatto. Le minga roguelike. Ah, ok. Minga vuol dire semplicemente minga. Non è. O non, no, o non è una negazione. Bravo al nostro amico Meneghino. Bravo, bravo. Questi lombardi. Meneghista. Con questo linguaggio. Meneghista, lui è meneghista, esatto. Bene, Francesco, dici qualcosa tu, dai, che io intanto assetto un attimo qui la regia. Assetto. Ah, questa partita è piuttosto concitata, mi fa piacere, comunque si vede la preparazione tra te del, come si chiamava, il dottor... Pippo Campo. Che bisogna leggere un po' dei suoi studi. Dovrei anche io aprire questa linea di business, ma vediamo, magari... Ah, magari c'è un franchising, il professore, chi può dirlo? Un franchising, no, ha detto che ce l'ha con i cinesi, quindi franchising, ci sta. Franchising, inglesizing, paesi bassizing, Bravo! La divertenza! Io tra l'altro vorrei far notare una cosa importante, che l'Italia... Turcoc. Vabbè, basta, è finito il programma, andiamo a dormire. vorrei far notare che la nazionale di calcio femminile dell'Italia oggi ha battuto i Paesi Bassi, che non si chiama più Olanda. Hanno giocato con i nani. Hanno giocato con i nani. Nani che cammina. I nani. Vediamo che questi lombardi hanno una cultura musicale metal romana di un certo. No, che romana. È romana, ragazzi. I nani. Non è romana, è internazionale. Cioè, vedi, Benson, esatto. Richard Benson, cioè il documento inglese, non l'ha mai visto nessuno, sto documento, però pare che gira una fotocopia per l'estate di Roma. Una cosa del genere. Comunque. Dicono che si chiama Riccardo Benzoni, ma lui ci tiene a dire che si chiama Richard, sì. Ronald Reagan. È importante perché e la moglie si chiama Thatcher, ricordate? A Thatcher, mamma mia. Mortacci tua. Niente, Michele, dalla chat c'è qualcuno che dice qualcosa oppure non ci ha cagato nessuno? Qualcosa di interessante, più che altro. A parte il fatto Sbano che ancora stava chiudendo il bando, quindi ogni tanto ci fa sapere che sta chiudendo che il sta bando. Sta soffrendo, giusto? Ci siamo dimenticati di taggarlo per avvertirlo che l'Italia ha fatto ben 2 gol. Vabbè, ma anche lui, cioè, sto bando lo sta a fare dentro un cubo di metallo, cioè un cubo dentro di piombo. Un cubo Borg. Esatto. C'è Melanie che cerca di capire le regole del gioco del calcio. Io me le spieghi tu adesso. Adesso io spiego io. Ma anche caro. Un cavolo verza e esatto. si tira coi piedi. Dove si deve tirare questo cavolo? In aria. C'è qualcuno che è morto. Vabbè, qual è lo scopo? Attenzione, c'è la segnalina che è una simpatica donna. Esatto. Eh sì, perché adesso c'è l'integrazione arbitrale tra uomini e donne. Grandi. Cristante. Intanto stanno facendo un altro cazzo. Cristante è una bestemmia. È una bestemmia, participio presente. Cristante 16 e entra al posto di il 5, che non so come si chiama. Ma Cristante 16 è nome e cognome, no? Comunque la gente c'ha la sciarpetta, regà, fa proprio freddo, porco 2. Cioè, bestemmiamo pure, va proprio freddo, porco qua, porco della. Cioè, siamo quasi a Ferragosto, ma niente. Vai, Francesco. Locatelli che fa le cose per bene ed entra una bestemmia. Locatelli fa le cose per bene ed esce Negroni. No, vabbè. Vabbè, era UEAR. Intanto ci stanno un po' di gente che sta. No, ma Francesco, che cos'è questo? Un calcio di punizione? Sì, no, volevo rendere più dinamica e interattiva questa puntata lanciando un contest in cui dovrà partecipare la chat. Un contest che vedrà coinvolti le stupide creature. Scusate se ho dato delle stupide, vi chiamate così, però. Allora, praticamente, allora avete visto che loro sono molto bravi a creare le cose così, le tirano fuori da un cappello come se niente fosse. In chat dovete allineare in fila quattro parole, anche senza senso, anziché completamente sconclusionate a caso, e loro vi comporranno una canzone così, sul momento, su queste quattro parole. La persona con le quattro parole migliori vincerà, facciamo così. Oppure vincerà un sorcio. Ma no. cosa vincono? La parola è cavolo verza. Cavolo verde, sono già due parole. Se non le vuoi fare attaccata, però attaccata sarebbe, non sarebbe corretta dal punto di vista grammaticale. Quindi adesso basta lì a guardare la grammatica. No, aspetta, ce n'è già Michela De Paolo con un "ma non sono sicura". Ah, ma non era. Pronto? Mi senti? Lei sta ascoltando radio? Sto aspettando Rantan Radio. Bene, ha vinto un cavolo verza, va bene. Adesso lei rimanga in linea con la nostra regia e ci dà tutto l'indirizzo per, e tutto quanto. Per rimanere in linea non mangi il cavolo verza, no, però, sennò no, poi no, la linea la perde. Il cavolo verza lo riceverà fra qualche mese, perché nel frattempo lo dobbiamo piantare, poi lo dobbiamo concimare. Ma lo pianta lei direttamente? Esatto. Ma che ne sa lei, Diego, che stiamo parlando, scusi. Ve lo dico io, lo può piantare direttamente meglio di tutti noi. Tra un cadavere e l'altro, va bene. Arrivederci, grazie. Arrivederci, il mio cavolo verza. Bello, adesso le arriverà mo un po', non è che si materializza all'improvviso. Arrivederci. Bene, era così, giusto, una cosa estemporanea. Adesso farò altri numeri a caso fra un po', così, giusto per... Fai 113, per vedere se stanno ascoltando. Lei sta ascoltando radio. E vabbè, escono giocatori della Turchia. Francesco, ma l'arbitro di che nazionalità è? Lo sappiamo? È russo. No, non lo so, potrei inventarlo al momento. Io dico che è francese, però sta facendo vincere l'Italia, quindi non è francese. Ma non è che non è che poteva. Non può occultare i gol. Ma adesso questa cosa che succede dove si seminano tutti davanti alla porta, che cos'è? È l'angolo del pogo, lì si poga praticamente. Ok. Fantastico! Cioè perché lì davanti, capito? Come davanti al fronte del concerto c'è semena, c'è dalle spinte, è così, funziona così. Comunque no, potrebbe essere francese, perché in realtà un fallo di mano ci ha levato, quello è riuscito a negarlo proprio in evidenza, quindi. Ok, Angela ci chiede qual è il portiere dell'Italia, a me mi sembra sia Donnarumma. Credo. Donnarumma. No, non rispondo. Questo non risponde. Lei è su? Lei è? Dove si trova? Lei si sta. Sono su Runtime Radio. Bravo! Lei ha vinto un cavolo verza che le verrà recapitato a casa. Ecco, è felice di questa cosa? Sono epissimo, veramente. Cioè, arriveremo davanti a casa sua tutti quanti con un cavolo verde. Sì, ma fallo parlare, scusa. Stava parlando. Vabbè, io stavo spiegando come potrà avere questo cavolo verde. Come potrà averlo? Dai, diglielo, così almeno glielo portiamo. Mano. In mano glielo portiamo. In mano. Anzi, lo mettiamo sopra Scozia, sulla croppa. Che buono. Ci presentiamo davanti a casa. Bene. Dove sta vedendo la partita? Non lo sto vedendo, ero a fare un aperitivo in enoteca e sono anche un po' brillo. Ok, va bene. Stiamo vincendo 2-0 comunque. Vabbè, comunque volevo sapere. Sì, 2-0, sì. 2-0. Si è segnato. Uno hanno segnato loro. Ciro! E l'altro ha segnato Ciro. Non ho capito una sega. Ho detto uno se lo sono fatti da soli. Praticamente. Sì. Ok, e l'altro l'ha segnato Immobile. Ah, ok, perfetto, Cirone. Bene. Quest'anno siamo grandissimi, siamo fortissimi, siamo bellissimi. Ecco qua, a posto. E siamo bellissimi. Va bene. Fatto. Grazie, arrivederci. Saluti la signora. Ciao. Buona verza. Un abbraccio a tutti. Ci sentiamo domani. Ciao. Buoni. buoni applausi da solo. No. Gol! Sei malvagio. E c'è il 3! Gol! Attenzione, il sorcio sta esultando. Il sorcio Insigne, Uscugnitz napoletano. Che cosa dice il sorcio? Ma che cosa dice il sorcio? Grande. Adesso però manca il gol. Manca il gol del cuore amore. 4 però 3, perché uno è un nome, Girasole è un nome di persona, quindi non lo usiamo. Quindi Girasole, Battipani, salutiamo Girasole ovviamente. Ok, quindi quali sole, 4 parole? No, Girasole è un nome di è un nome di persona. Ok, non può. Ok, quindi quali sono le 4 parole? Girasole, Battipanni, Bambagia, Supplì. Ok, vai, stupide creature. Mi chiamo Ernesto. Sono un poeta della cucina. Specializzato nel cavolo Versa. E faccio i supplì. Prendo il cavolo Versa, lo batto con i battipanni. Col battipanni batto il cavolo Versa. Batto il cavolo Versa col battipanni. Col battipanni batto il cavolo Versa. Batto cavolo Versa. Ci aggiungo poi della bambagia. Della bambagia. Della bambagia. Della bambagia. Lo batto per bene. Lo metto nel forno. Bella, veramente bella. Io c'ho avuto un momento di un brivido dietro la schiena, tipo, ma quando finisce anche? Aspettiamo poi la versione, quella extended. Intanto sì. Ovation, standing ovation per Ciro Immobile e standing ovation. Ma come parli? Standing ovation per Ciro e Insigne, che sono usciti perché sono stati sostituiti. Io ho capito che c'era un tizio che era uno molto Belotti, no? Uno bel Belotti, entrato Belotti. Però stava Cristante in chiesa, esatto. Perché gli era caduta un'insigne esatto. Insigna sui piedi. Allora Cristante in chiesa. Esatto, giusto? Esatto, bravo, okay. Bravo. È proprio esattamente tutto sommato. Tutto sommato, Sant'Agostino, lei mi stupisce a volte. Ne sa. Bene. Ma anni passati davanti al Vic 20. Vedi cosa ma fa. A proposito di cucina, chiare stupide creature, a questo punto, insomma, possiamo anche parlarne, dato che oramai penso che il risultato non sia più in dubbio. Ernesto? No, dice Ernesto, non so, mi guarda, dice Ernesto e mi guarda. No, è il resto, volevi dire, è il resto che dovevamo dire. Sì, noi come al solito siamo andati a intervistare delle autorità legate sempre a questa partita, perché insomma dopo il dirigente turco ci sembrava doveroso dare spazio a degli sport particolari e soprattutto intervistare chi di cucina se ne intende, perché giustamente, come hai detto tu Simone, l'importanza della cucina per un atleta è fondamentale. Vogliamo dire tutti insieme la parola fondamentale? Fondamentale! Bene, grazie a questa parola noi siamo riusciti a recuperare... Fondamentale! Yeah! Bravissimo! siamo riusciti a recuperare un grandissimo cuoco che ha avuto appunto l'onore e l'onere di cucinare questa sera per la nazionale azzurra e per quella turca. Ci racconterà lui però nell'intervista i dettagli di questo ambizioso evento. Sì, ma come al solito mi serve una pennetta, ecco, questo mi servirebbe cari una amici, pennetta. Benvenuti a questa meravigliosa rubrica che cercheremo di tenere ogni settimana, che si chiama Il menù del campione. Importantissima per conoscere nuovi esponenti della culinaria internazionale. Abbiamo qui con noi, vero Mauro? Introduci tu questo personaggio perché questa sera sono particolarmente emozionato. Beh, anch'io sono molto emozionato di avere qui con noi questa sera questo meraviglioso ospite, questo chef di fama internazionale, quest'uomo che ha lavorato in tutto il mondo, anche sulle navi da crociera, penso anche sulla luna. Sì, è veramente incredibile. Mauro si è addirittura commosso. Adesso gli stringiamo la mano e va tutto a posto. È un'emozione grandissima. Ho capito. Sì, è proprio così. Ecco, abbiamo qui con noi, signori e signori, Titino Tinto. Oh, grazie, sono molto onorato di essere qua e sono ancora più onorato che praticamente ho fatto tutto il menù della squadra, della nazionale italiana, è stato veramente un onore. Ma io so che lei ha un soprannome anche nel mondo culinario, lo chiamano anche Salefino. Sì, Salefino, perché questo deriva da una vecchia storia. Come ho fatto a sapere? No, guardi, lasciamo stare perché ci sono ancora i giudici in ballo. Noi sappiamo che lei è uno chef graduato e tutto quanto, però volevamo così che lei si presentasse, si palesasse al nostro pubblico raccontando un po' quelli che sono stati i suoi successi, in particolare in giovanissima età. Lei si è già addirittura trasferito a 16 anni, se non ricordo male. Ma guarda, è vero, io praticamente da quando sono nato sono nato in cucina, si può dire. Forse mia mamma mi ha partorito anche sui fornelli. Infatti ce l'ho già sempre caldo. Comunque guarda, io ho lavorato in tutte le cucine d'Europa. Sai dove ho lavorato tantissimo? In Scozia. Tu ce l'hai presente la Scozia? Tu sei mai stato in Scozia? Al momento no, però Mauro sì. Allora, se tu sali dalla Scozia, appena arrivi in Scozia, primo semaforo a destra, dice che è il mio albergo. Allora, siamo curiosi di sapere cosa ha preparato questa sera per i nostri giocatori. Allora, per i ragazzi della nazionale, veramente devo dire che ho fatto un menù che mi sono superato. Devo dire che però ci sono rimasto un po' male, perché i ragazzi della nazionale hanno mangiato 4 palmenti e la cosa mi ha fatto veramente piacere, ma i nostri amici, diciamo così, amici dalla Turchia, praticamente non hanno toccato piatto, non hanno toccato cibo. Ma com'è possibile? Prima di fare una partita, sì, capisco rimanere leggeri, ma nemmeno mangiare. E io ci sono rimasto male, anche perché avevo preparato un menù proprio di tutto rispetto. Aspetti che adesso glielo leggo. Allora, intanto una bella tartare di fassona per iniziare. Poi, come primo, un piatto internazionale che si trova in tutte le cucine d'Europa. Le tagliatelle alla bolognese, con un bel ragù alla bolognese, come si fa, mi diceva mia mamma. Poi alla fine, per secondo, per stare un po' leggeri, un bello stinco di maiale con le patatine al forno, quelle che faccio io. Siccome mi era avanzato un po' di ragù, le ho svuotate e ce l'ho messa dentro. Ecco, sì, il menù è sicuramente interessante, le facciamo i complimenti per averlo pensato, ovviamente. Però ecco, sì, forse lei ha sottovalutato il fatto che in Turchia maiale non si mangia, insomma, ecco, tendenzialmente. Come non si mangia il maiale? Cosa mi stai dicendo? Intanto del maiale non scherziamo, non ci butta via niente, che è la cosa più buona che c'è, il maiale. Tu cammini il maiale, non toccarmi il maiale. Io ho 400 kg di carne, cosa faccio? Mica stai dicendo che magari sono vegani, Vabbè, ma in ogni caso non si può buttare via tutto questo cibo, peccato. No, infatti, guarda, io non butto via niente. Adesso c'ho già un'idea. Che è che giochiamo la prossima partita? La Svizzera. Ecco, perfetto. Adesso io surgelo, settimana prossima scongelo, li metto su un po' di salsa bernese e poi voglio vedere se i svizzeri non me la mangiano. Va bene, ringraziamo Titino Tinto. Grazie mille, grazie, alla prossima. Grazie a voi, vado a surgelare adesso. E vabbè, lo fanno. Lo fanno. Era l'esemplificazione dell'utilizzo della parola minga. Tu caminga il maiale. Ecco, non io. Toccare. Bravo. Il maiale. Bravo, bravo, veramente bello, bello. E Vicky adesso, Santa adesso, colpisce ancora. Simone ci spiegherà il significato della parola biot. Biot? Che se biot. Se biot, ma perché io faccio il conduttore, non me ne puoi rompere i coglioni così. Chiedilo a Marco Gualdi. Gualdi, che vuol dire biot? Dimmi una frase però. Dimmi la frase. Te biot. Sei biot. Sei un po' sciocco, un po' sciocchino. Un aiutino. Sei un po' sciocchino. No. Sei acqua proprio. Acqua. Sei brutto. No. Sei ciccione. No, acqua. Niente, sei biot. Sei ricco. Niente, questo concorrente ha perso l'occasione. Sei di nudo. Sei nudo. Biot o nudo. Italianizzato vuol dire nudo. Nudo, bello, bello. Allora ragazzi, i giocatori della Turchia ci stanno andando in puzza, come era ovvio che succedesse, e stanno buttando per terra tutti stanno i giocatori. Menando come Fabbri. Poi a un certo punto l'arbitro ha ammonito uno di loro, il quale lo ha inseguito bestemmiandogli contro, cioè noi non conosciamo il turco, ma era palese dall'espressione facciale che c'erano delle bestemmie. Ma essendo francese, detto va bene, non ti come noi abbiamo dedotto che sia francese. Marco, guardi, tu che sei il poliglotta di Casa. Marco, guardi, chiedi a Google. Com'è una bestemmia in turco? Chiedi a Google. Magari senza andare proprio nella bestemmia, no, insomma. Cioè. Non si può bestemmiare. Non so, magari fagli che ne so, mannaggia. No. Secondo me invece si stavano disquisendo sul bidet, no? Gli ha detto: ma stai zitto, francese, che non c'è neanche il bidet. Esatto. Sempre così, no? Noi siamo più puliti, sì. E anche se stasera non abbiamo mangiato, comunque siamo qua a giocare al pallone. Sempre deducendo che per nostra idea questo sia un francese. Sicuramente è francese, cioè. Ma guarda che sì. Faccia, secondo te, poi, attenzione, c'è un'ammonizione. Ragazzi, qua abbiamo i fuochi d'artificio. Ha vinto l'Italia. Guarda il mare in è finita la partita. Cazzo merda. Questo però te cartellino sei... giallo per qualcuno. Io sto proprio indietro. Ma cartellino in giallo per chi? In giallo per un in giocatore. Giallo per Alibaba. Esatto. Sì, è il secondo turco ammonito, mentre che ci sono i tifosi dell'Italia che stanno neanche guardando. Credo che è stato ammonito, cioè, non so, stanno a giocare. Allora comunque siamo lì forse c'è ancora un minuto, due minuti di tempo per segnare Quanti sono i tempi di recupero? Turchia. I tempi di recupero sono 12 tempi da 5 minuti ciascuno, quindi durerà moltissimo. Comunque se la Turchia riuscisse a segnare, il nostro amico Amleto forse si sa, sì, potresti farcela, dai. Dopo tutto l'abbiamo spinto. Dai, diamogli fiducia, dai. Ma sì, dai, c'è un gol, che vuoi che non ce la faccia a fare un gol? Poi, dopo tutto, insomma, cioè, a noi ci piace il sorcio, ci vorremmo tenere, fa tanta compagnia, insomma. Bene, abbiamo finito tutti i contributi, ci siamo sparati proprio... alla grande. Questa quella... Ragazzi, noi siamo in zona festa e non so se sentite. Sul lago di Como è tradizione che tutte le sere facciano i fuochi d'artificio all'improvviso. Sì, beh, ma questo succede anche a Monterotondo. Devo dire che è bellissimo perché Monterotondo, che è insomma un paese che potrebbe essere equiparato a un quartiere di Roma, è come se fosse suddiviso in 100 quartieri. Ogni quartiere, cioè ogni palazzo fa quartiere e sono fa come mega building di Cyberpunk. Esatto, fa una festa. Scusate, ma TikTok non è un social network, network cinese? Era cinese. Il nuovo nome della Turchia. Era cinese. Adesso gli americani hanno fatto, diciamo, di tutto perché diventasse, perché sta negli sponsor dell'euro. Sì, d'altronde se c'è sta Huawei magari Huawei oggi non c'è, però c'è vivo. Non lo so che stavamo dicendo, non so perché io faccio i discorsi, lei mi interrompe, quindi finisce l'afflato. Poi io... si dice stufato di noci in ungherese. Oddio, non so se lo voglio sapere. Cazzo merda, sempre. Cioè, tutto... sì, tutto uguale. Chiedetelo da Alexa. Avete Alexa? Li faccio esplodere tutti. Alexa, come si dice stufato di noci in ungherese? No, Alexa non sentirà. Ma attenzione che potrebbe... Aia, oh, quasi si salvava. Alexa sta invecchiando, cioè, e noi la teniamo qui perché ci fa pena, e però non ti sente. È vero, la nostra Alexa non risponde più ai comandi, cioè risponde quella dell'altra stanza. E forse l'amica del VAR. È vecchia, poverina, è vecchia. No, sta prendendo decisioni per conto suo. Alexa, quando era giovane, era efficiente, un po' spiona e picciona. Adesso è vecchia, il microfono non prende più come un tempo. All'artrite, all'artrosi. Anche l'altrot. Il martelletto non funziona più come un tempo. Ci avviamo di rottamare tutta questa tecnologia e tornare a un mondo migliore. Un mondo dove l'uomo alza il culo dalla sedia per alzare il volume. Dove l'uomo alza il culo dalla sedia per cambiare il canale. Dove un uomo è veramente un uomo. Alexa, spingi la musica. È finita. Sì, però tu non puoi rovinare le opere artistiche. Facciamo il matrimonio tra Alexa e il VAR. Esatto. È finita, ragazzi. È finita la partita. È finita 3-0. E quindi tocca sentire il sorcio. Aspetta, prima abbiamo un altro intervento che è più importante. C'è, diciamo, un intervento, sorcio. Puoi aspettare. Forse ti salvi, sorcio. C'è un intervento. Eccolo qua. Demetleri kemiriyor. Ecco, ve lo ribadisco, perché qualora, insomma, aveste avuto dei problemi. Türk demetleri kemiriyor. Ecco, ok, quindi sappiatelo, insomma, sappiatelo. Devi stare attento che se va Türk demetleri kemiriyor. No, è che è una frase in turco che dedico ai nostri amici turchi. Türk demetleri kemiriyor. Potrebbe significa pietra under culo, però non lo so. Qualcosa che ci si avvicina, esatto. Sommato, qualcosa che ci si avvicina. Ma è il momento, Pizzi. È il momento. Sentiamo che cosa ne pensa il sorcio. Sì, lo so, ci sei andato vicino. Ma era detto. Ma vabbè, però dai, no, cioè, lui comunque il lavoro sul l'ha fatto. Beh, tre gol li ha azzeccati l'Italia. Esatto, io non mi sento. Poi la Turchia. Altri due, però. No, ne manca uno. Perché era 3-1. Allora quasi ormai siamo, che vinto, facciamo? Grande il sorcio, dai. Lo graziamo. No, c'è qualcosa che... Ecco, mi dispiace il sorcio. Vabbè. È successo. No, pochi pulisce, raga, capisci? No, non lo so, se è il microonde del microonde di Maniac Mansion che sta dentro al tuo computer, quindi Mansion. Niente, il Criceto non ha rispettato, insomma, e quindi non ha passato il turno. È stato eliminato. E eliminare in questo gioco delle previsioni animali delle partite significa la morte. Perché noi siamo per la selezione innaturale delle specie intelligenti. Quindi noi dobbiamo creare il super predittore, quello che fa le previsioni. Sì. E attraverso l'incrocio di animali che sono bravi a farlo. Questo non è bravo, e quindi purtroppo c'è sempre il capiro. C'è sempre qualcuno che è al posto di qualcun altro che fa cose che non dovrebbe fare, che dovrebbe fare altre persone. Comunque, questo non è importante. È finita 3-0 il primo incontro dei campionati europei di calcio per la nostra nazionale. Hanno segnato il turco, Insigne e Immobile, e noi siamo molto felici, ma soprattutto ci siamo portati a casa questo primissimo episodio di Eurocalcio, esatto, 2021, con numerosi punti. Michela, quanti punti abbiamo portato a casa? È arrivato il papà del bambino che ridaglielo che la prossima settimana cercheremo di darti. Secondo me il papà del bambino non avrebbe fatto tutto questo delirio. No, se è lo stesso papà che dico io, sarebbe andato a ricomprarlo. Esatto. Va bene, ragazzi, allora vi ricordo che ci siamo portati a casa appunto questa bellissima puntata, ci siamo divertiti. Devo trovare semplicemente un modo per far partire i brani in una maniera più semplice. Mi serve un software per il tablet. Perché insomma. Andiamo bene. Ma adesso bene. Ci penso io. Basta pagare. Sì, basta pagare. Oppure mi serve una pennetta. Perché premere dei file con le dita su un tablet è complicato. Insomma, quindi devo trovare dei mezzi per poter migliorare questa cosa. Però, veramente è stata una puntata carina, ci siamo divertiti. Adesso, mentre martello sul tablet funziona. Anche sì, esatto. Adesso Marco Gualdi va a controllare sul calendario ufficiale per vedere quando è la prossima partita. Che dovrebbe essere il 14, se non sbaglio. Italia-Svizzera dovrebbe essere. Dici lunedì. Dovrebbe essere. Adesso controlliamo. Chiediamo a Google. Chiedi. Google. Non so, non c'è. Ehi, Google. Google, quando è la prossima partita dell'Italia? Gli azzurri giocheranno contro i rossocrociati mercoledì alle 21 a Stadio Olimpico. Mercoledì alle... A Stadio Olimpico. Ciro, c'è Ciro che parla! Ora siamo pronti per mercoledì. Esatto, i rossocrociati. Allora, ragazzi, io vi ringrazio tutti quanti, è stata veramente bella fare questo ritorno di questo episodio con le stupide creature che sono chiaramente un valore aggiunto. Grandissimi! Ringrazio e saluto Marco Gualdi. Grazie, grazie, vi saluto e porteremo un altro animale la prossima. Svizzera, la Svizzera, dico, studia la Svizzera. Studieremo la Svizzera. Bravo, ok. Sì. Ringrazio e saluto Michele De Paola. Grazie a tutti e niente, soprattutto grazie a Ciro. Ciro. Infatti, studiati come sono le regole del calcio in Svizzera, perché sono diverse. Sono diverse. In rosso crociati, esatto. Ringrazio e saluto Carlo Sant'Agostino. Ciao, ciao a tutti. Con un nuovo computer la prossima settimana. Cavolo Verza. Esatto, viva Cavolo Verza. Ringrazio e saluto Francesco, Lobby Frontali di Muro. Sì, comunque voglio rispondere a Carlo per quanto riguarda il fatto, come si dice in ungherese quella parola là, sto fatto di noci, si dice Anubi, però non quella Anubi, non proprio Anubi, non esatto. Proprio Anubi, diciamo questo. Vabbè, spiegatecela, scusate, non ci lasciate nel mistero. Il mistero. No, non si può dire, non si può dire. Non si può dire. Non si può dire. Va bene. Ringrazio e saluto tutte quante insieme, le stupide creature. Grazie, grazie, ciao a tutti. Ciao. Prossima settimana nuovi contributi, nuovi brani e soprattutto nuova partita per stare tutti quanti insieme. Quindi vi ricordiamo, ci pare di aver capito, mercoledì. Alle ore 21 e quindi mercoledì 16. Quindi alle 20:45 come in questa occasione, quindi faremo le presentazioni, gli nazionali e tutto quanto. Vi racconteremo come abbiamo raccontato in questa occasione la partita dell'Italia. Vi ricordo www.runtimeradio.it, vi ricordo di andare anche sul pulsante Runtime Anch'io, quindi anch'io, dove potete contribuire con quei mezzi che avete a disposizione, se volete, naturalmente non è assolutamente obbligatorio, però sapete che Runtime è un progetto che è figlio di altri progetti, che va avanti da 10 anni e lo abbiamo fatto sempre con le nostre forze, con le nostre energie, ma insomma un sostegno non fa mai schifo a nessuno. Se ci riusciamo, metteremo presto anche lo shop con le nostre magliette, le nostre cose divertenti, altrimenti c'è il Patreon o il PayPal se volete dare una mano, altrimenti non fa niente. Domani sera alle 23:30, come al solito, torna a Runtime by Night per farci le nostre bellissime chiacchierate notturne e poi tutta la settimana tornerà naturalmente come se niente fosse. Giovedì prossimo ritorna anche Quando Eravamo Futuro, che durante queste 2 settimane insomma è un po' mancato, ma anche chi se ne frega. E ringrazio tutti, buonanotte da Runtime Radio, da me Simone Pizzi è tutto, ciao. Ciao. Buonanotte. Okay.